Cineplegici, il podcast per malati di cinema. Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata dei I Cineplegici, il podcast di cinema fatto da malati di cinema per malati di cinema. Io sono Alessandro, alias Alex Diro, e con me ho tre compagni di avventura che mi accingo a presentarvi. Niccolò, detto anche Intrinseco, ciao. Ciao, ciao. Il buon Matteo, detto Darkman. Ciao, ciao. Saluta con un po' più di... di vigore, dai. Sembra una donnetta così. E poi abbiamo il Monco. Pimici pomici pu, siete pronti a partire? Mi chiamo Luca, comunque è un nome vero. Ecco, anche un nome vero, e noi lo stiamo conoscendo adesso il nome vero del Monco, ma va bene. Sì, sì, in diretta. Allora, e vabbè, partiamo subito con le news. La prima news di oggi riguarda Guillermo del Toro, il regista spagnolo del Labirinto del Fauno, e che dopo varie peripezie ha lasciato la regia dell'Hobbit. Sembra che non l'abbia lasciata per divergenze artistiche con i produttori, ma semplicemente perché il protarsi, diciamo, del ritardo delle riprese coincideva poi con altri suoi lavori, insomma, che erano già preventivati da un sacco di tempo. E ha anche scritto una lettera ai suoi fans in cui dice che molto di quanto ha fatto lui, sì, quei 3-4 fan ha pagato lui i francobolli, tanto è una cosa minima. Sì, dove dice che quanto ha fatto lui per il film rimarrà comunque nella versione finale dell'Hobbit. Da allora c'è stata una girandola di nomi papabili. Si è andati da Brett Ratner, mi sembra, sì, quello sì. Di X-Men 3, fino a Neil Blomkamp, che è il regista di District 9, il pupillo di Phil Jackson. Allo stesso Phil Jackson, anche, mi sembra, che era stato papabile, sì. Insomma. Cosa ne pensate voi del fatto che comunque quello che ha fatto del Toro, anche per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto visivo, rimanga nell'Hobbit? No, io vorrei dire che la scelta di Blomkamp, se si dice così, è perfetta, perché è una continuazione, visto che Blomkamp mi sembra che abbia collaborato nel reparto effetti speciali di tutto Il Signore degli Anelli. Visto che l'Hobbit è molto legato, è perfetto la sua scelta. Invece di darlo magari, sì, come si chiama, Del Toro, ma quale dei due, Benicio, no? No, no, Guillermo. Quello grasso, Guillermo. Quello con cinque dita. È vero. Guillermo che, vabbè, sì, molto visionario, però magari avrebbe cambiato un po' troppo, non lo so. Meglio Blomkamp dal mio punto di vista. Beh, forse sarebbe stato un prodotto, diciamo, meno commerciale, più autoriale con Del Toro. Ma non credo. Almeno dal punto di vista, almeno dal punto di vista visivo. Magari un po' più palloso, visti i lavori. Un autore allegro. Neanche però... tu sei un estimatore. No, però, insomma, Labirinto del Fauno carino, ma è lento. Hellboy 2, sì, film action, ma io mi occupavo alla grande, quindi... Bah. Preferisco anch'io Blomkamp, anche per lo stesso discorso, alla fine è una successione, sì. Continua il lavoro. Non si sa dove mettere le mani, no? Poi, insomma, mi sembra che il Signore Anelli sia incontestabile, almeno con l'aspetto, quindi... Sì, dal punto di vista del contesto, della riproduzione artistica... Però, cioè, comunque fa un buon lavoro. Anche Lo stile... di Jackson, però, insomma, il Signore degli Anelli era ben fatto, almeno in quel punto di vista. Lo stile sarà simile, una continuazione. Nel senso, non è che può cambiare più di tanto, l'ambientazione è quella. Magari Del Toro avrebbe anche strafato, non è detto. Infatti. Beh, comunque, almeno stando a quanto ha detto Del Toro, quello che ha già fatto lui per il film, ovvero si era occupato di alcuni bozzetti preparatori e comunque l'impronta generale del film dal punto di vista visivo, lui ha detto che rimarrà nella versione finale, quindi allora, sì. Ok, mettiamo Blomkamp che è della Weta, però comunque rimarranno sì. E comunque c'è stata la smentita oggi dello stesso Jackson, che ha detto che Blomkamp non parteciperà alla realizzazione di The Hobbit, ma bensì si dedicherà a un altro progetto. Ah, adesso mi sembra di aver letto. Sì, sì, sì. Poco prima del Comic Con, che è una gigantesca convention. Quindi adesso non c'è nessuno alla regia, praticamente. Adesso c'è Pagante il posto. Leggerà le redini di questo filmone che continua a essere... Quanti anni sono? Io mi ricordo, parecchio tempo. Sì, beh, se ne parla da quando è finita la saga del Signore degli Anelli. Comunque poi la produzione... Sì, beh, poi la produzione comunque un paio d'anni dopo è iniziata effettivamente. Addirittura dicono che uno dei papabili sia Vincenzo Natali, il regista di Splice, come si dice? Splice, sì. Bah, non lo so, comunque... un buon regista libero sul mercato da oggi c'è Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, ecco qua. Sì. Parliamo di tragedie... No, non lo sfociamo. Dipende dal punto di vista. Se è una tragedia o no. Basta. Beh, dai, è lutto nazionale da oggi. Dipende il 23 è. Giugno. Vabbè, se sei padano, dillo. Se sei padano, dillo. No, io no. Oh, si sente l'accento padano, dai. Sì, sì, sì. Tipica fortissimo proprio. Questo l'accento del Senatur. No, ovviamente no. Questo rimarrà in trasmissione. Perché ti vergogni, non lo so. Vabbè, non so, non c'è nient'altro da dire su... No, non è interessa particolarmente come progetto, quindi... Non ti attizza? No, fin da quando... Hai letto il libro? No, ma proprio il fantasy, non sono un gran fan del fantasy, quindi... Anch'io. Effettivamente nemmeno io, però... Cioè, mi sembra il genere che è nato e morto col Signore degli Anelli, sinceramente. Non piace però l'odio a prescindere, soprattutto che c'è sul forum, ma in generale, questa strage, odiatissimo, ha rovinato il libro, una roba che palle. Neanche adesso la pretesa di essere un film d'autore, è un colossal degno del libro. Ma sì, cioè... Anzi, le sue cazzate dentro, per carità, certe scene le avrei evitate anch'io, però, porca vacca, fossero tutti così i film... Il colossal, con scene di battaglia. Sì, senza dubbio. No, ma soprattutto quello che dicevi tu comunque dal punto di vista artistico mi sembra abbastanza fedele anche a quello che immaginava Tolkien. Difficile, dai, cioè immaginati farlo come l'avrebbero voluto i fan, dai, è impossibile. Sì. Solo la parte degli Ent. Dura tre ore solo quella parte lì, perché appunto era lenta, era molto lunga, c'era l'incontro, il consiglio. Cioè, Tom Bombadil, solo quello. Una sì. Era come mettere il finale originale di Watchmen anche nel film. Qualcuno avrebbe detto che cazzo. Sì. La seconda news che finalmente è uscito il primo trailer del nuovo progetto di Michel Gondry, mio amatissimo regista francese. Non so se voi condividete l'amore per Gondry, che però si è un po' venduto o no? Cioè, almeno dal trailer mi è sembrato... Abbiamo detto il film, però, di quale film? Il titolo. The Green Hornet, sì, esatto. Il nuovo film di Gondry è The Green Hornet, che è un remake. Ma qual è il regista? Michel Gondry, l'ho detto. The Green Hornet, il regista. Gli attori, ma di che parla? È un remake di un film con... Era una serie TV, non era un film? Sì, sì, era una serie, scusate. C'era stato anche Jackie Chan, Jackie Chan, Bruce Lee. Sì, tutti uguali, madonna. Ecco, il momento del razzismo, dai. E sì, quindi questo è un remake... Gondry è francese. Gondry è francese, cioè... dai. Comunque, commentando, parto io così. Sì. A parte gli attori, sembra davvero un film di Apatow, non sembra di Gondry, non ha nulla, perché è un trailer, come al solito, insomma... È un thriller, è più un action da Marvel. Sì, però nel senso, ovviamente non ha nulla di suo, sembra proprio un... No. Potrebbe essere anche di Apatow, davvero. C'è anche l'attore feticcio di Apatow, che è Seth Rogen, no? Seth Rogen, sì. Cioè, ma è anche tra i produttori Apatow, non credo. No, dicevo, però lo stile non sembra di Gondry, per quel poco che si vede, ovviamente. Poi il fatto che sia già mi dice poco. Personalmente ci ho visto qualche trovata abbastanza originale, non lo so, anche artigianale, diciamo. Tipo quando escono dalla villa con la macchina, con la siepe che si apre a metà con la macchina. Sì, cioè è artigianale. Però insomma... però sì... Nel senso, non poco... vedo il marchio io, poi non so, sì. Chiaramente il film intero sarà diverso, spero. Sì, insomma, è comunque diverso da tutto quello che ha fatto Gondry fino adesso. Anche la roba più, diciamo, più, tra virgolette, commerciale, come può essere Big End Rewind, diciamo, no? Sì. Ci sarà il grande ritorno di Edward Furlong. Era dai tempi della famosa frase "Put the gun down!" di Terminator 2, che non lo vedevamo. Che bei momenti! Diciamo che Grino... cavalca, diciamo... questa moda del supereroe è sfigata, già iniziata con che ricordiamo. Anche perché ma di quello ne parliamo dopo, dai, di Kick-Ass ne parliamo dopo, che vabbè, abbiamo lo stesso filone, sembra. No, sì. Vabbè, è iniziata un po' prima, penso, il filone del supereroe sfigato. Sì, lo so, però adesso vengono fuori questi due, più o meno nello stesso periodo. Tra l'altro l'hanno reso così, perché l'originale non credo fosse così, quindi l'ha proprio reso più simile ai film che stanno uscendo. E dopo aver saputo che Edward Furlong sarà nel cast di The Green Hornet, con Maxi Gioia passiamo alla prossima news, ovvero la cancellazione del progetto Newt da parte della Pixar, che ha deciso di puntare su forse più remunerativi seguiti di brand già conosciuti. Innanzitutto parliamo, insomma, un po' di Newt, che era un progetto abbastanza interessante. La trama parlava di due salamandre, ultime della loro specie. Blu, ricordiamo blu perché è importante. Esatto. Che venivano costrette dai scienziati a convivere e ad accoppiarsi. Diciamo che l'idea poteva essere anche originale, sembrava una di quelle idee proprio da Pixar. Che rientra proprio perfettamente nel classico film Pixar, cioè già la storia d'amore tra le due salamandre che si odiano e che sono obbligate a stare insieme, cioè già questo è abbastanza pixariano, cioè non era nulla di così rivoluzionario. Interessante, punto. Sì, normale se rapportato agli altri film Pixar, visto che c'è comunque un certo tasso qualitativo abbastanza elevato. All'interno dei film Pixar era abbastanza normale avere un'idea così originale, però comunque mi sembrava un'idea abbastanza interessante. Interessante. Tra l'altro, peccato i genitori però... si sono conosciuti così. in laboratorio. Però guarda come è uscito fuori. Li hanno cancellati anche loro? Sì. Però il figlio è rimasto. Insomma, la Pixar, diciamo che ha deciso di abbandonare un progetto originale. Ha detto due film di animazione con esseri blu, Shimani Puffi e Tanana. E Avatar, quindi. Sì. Quello sì, film di animazione. Hanno deciso quindi di puntare su i seguiti di Monsters & Co. e Cars. Cosa ne pensate voi? Il mondo creato per Cars è abbastanza interessante, si potrebbe dire fuori un sequel più bello del primo. Cioè il primo era dei contenuti parecchio, cioè non c'era molto sapore, era abbastanza sciavo come insipido. Insipido. Sì. Poi invece che ne pensate voi due? Che ne penso? Che non è che sei un fan della Pixar. Non mi piace. Non sei un fan della Pixar. L'animazione. Vabbè, li ho visti, gli ultimi, li ho anche, insomma... Mi sono piaciuti, però queste salamandre mi sembra una grandissima idea. Bah. Poi magari veniva fuori una bella idea, come Wall-E non sembrava chissà che roba sulla carta, e poi è venuto fuori un filmone. Magari anche questo, però... So. Per come sia uscito Toy Story 2, forse dubitare della Pixar, o meglio, sui seguiti dei film Pixar, forse non bisogna neanche tanto dubitare, perché insomma... A meno per quanto riguarda Toy Story 2 mi è anche piaciuto di più del primo, no. Quindi no, a voi vabbè, comunque poi ne parliamo. Dubitare no, però insomma è preferibile una cosa nuova, no? Sì, beh certo, il prodotto originale era così nuovo, cioè era nuovo. Vabbè, però comunque era un progetto che non era, non era già stato. È sempre brutto, anche Monster Call. Dai, è bello. Funziona, sì, però appunto il bello è perché è unico. Se devi cavalcare l'onda, non lo so. Avrei preferito, cioè, ok, abbandono ogni ultimo, ma prova qualcosa di nuovo. Non so, sinceramente, è una cagata e basta. Visto che i Toy Story lo vanno comunque ancora a vedere tutti. Andranno a vedere tutti, e ho detto, boh, facciamo anche lo stesso lavoro sugli altri. Sembra solo una cosa più commerciale. Sicuramente è commerciale, però questo non significa che non può venire qualche più. No, ho detto che saranno chiaviche, però sinceramente, visto che sono famosi per l'originalità. Tra l'altro ci sono due news relative alla nostra news di oggi, ovvero che John Lasseter sarà il co-regista di Cars 2, e non so se questo è un bene o un male, perché la regia di Cars mi è sembrata abbastanza poco ispirata. Niente di che. E tra l'altro un'altra notizia di oggi è che, nonostante Toy Story 3 sia la fine della trilogia, un produttore della Pixar, il regista di Toy Story 3, Lee Unkrich, ha dichiarato che, come prassi insomma della Pixar, prima di Cars 2 ci sarà un cortometraggio inerente all'universo di Toy Story, quindi potrebbe non essere finita qui. No, basta, era già finita. Ha detto che è finita, soltanto che aggiunge sto tre... Vabbè, però... se effettivamente, cioè, Toy Story 3 sta avendo un successo stratosferico, se effettivamente la Pixar fa una svolta commerciale, ancora per pronti. Cominciamo a farci nemici, dai, cominciamo a farci nemici, che sempre... queste dichiarazioni coraggiose. Da questo argomento, ovvero dalla news inerente alla Pixar, passiamo al primo argomento di oggi, ovvero il Monco si domandava: ma Toy Story 3 a che cosa serve? No, un attimo, allora, Toy Story 2, un breve ripasso, cos'era? Woody in pericolo e Buzz che va a salvarlo? Una roba del genere? Sì. Ok. Allora, appunto, era necessario un 3, ormai Andy è cresciuto, sono passati 10 anni tra il 2 e il 3, no? Anche la storia dovrebbe essere così. Andy sta per andare all'università. La storia è finita. Può darsi che proprio questo è il bello, cioè tu il film non hai visto, quindi che ne sai? Sì, ho capito, questi pupazzi, questi giochi, ho già visto dal trailer, andranno in un asilo, in una cosa del genere. E chi se ne frega, cioè... Che altre avventure avrà allora a sto punto? E non lo so, è bello vedere quelli, è bello vedere quello, poi se no, bene, la prima idea mi va bene. Beh, alla fine è un po' il discorso, la chiusura, cioè l'età adulta, come è finita l'infanzia, che lo punti a quello. È un ciclo che si chiude. E appunto, ormai è adulto, da videogiocattoli, ci sta anche bene come chiusura, per carità. Sì, era un cortometraggio di 10 minuti allora. Sì, no, ma anche io non sento la necessità. Il cortometraggio lo faranno, non ti preoccupare. Sì, ma dico, poteva essere Andy che dice: oh, i miei pupazzi, e beh, voglio la carità, è finito lì, che storia c'è da mettere dietro? E Mister Patata che va all'asilo, messo nel naso del ragazzino, non lo so. Credo che sia un po' il discorso che si faceva anche prima di Newt, magari l'idea, il concept di base non può sembrare non così bisogna interessante, poi esce un buon film. Cioè, io mi auguro che insieme a Andy siano cresciuti pure i giocattoli. Cioè... sì, sono diventati due mesi. Vista... No, quanto siete grevi. No, nel senso che comunque da un punto di vista psicologico siano cresciuti anche loro. Cioè, spero anche questo. No, dai, già dalle scene si vede... Anche perché dalla Pixar è lecito aspettarsi anche questo, almeno per quanto vi riguarda, poi non lo so. Dalle scene si vede Buzz che parlerà in spagnolo perché viene resettato. Che maturazione, che gioia. Vabbè, comunque rimane un film d'animazione. Comunque rimane un film per PC, insomma, quindi... No, io non vado a vederlo, non mi convincete. Vabbè, no. Tu non andrai a vederlo. No, cioè... io ammetto che non l'ho visto neanche il 2. La mia critica generale ai seguiti Disney e Pixar è basata sugli altri seguiti che ho visto, tipo Re dei Toby 2. La Sirenetta 2. Sì, aspetta però, quelli erano prodotti totalmente diversi da questo, nel senso che a Disney ha una succursale che si occupa proprio di fare i seguiti non video. Ma la succursale, tipo, ci mandano i, non so, gli studenti poco che si applicano poco. Ma anche Toy Story 2 non era una roba del genere. No, Toy Story 2 è stato fatto da Lasseter, cioè è stato un prodotto della Pixar fino in fondo, sviluppato con tutti i crismi dei film Pixar. Va bene, sì. Ritiro la mia accusa, lo andrò a vedere. Quella era una situazione completamente diversa, quella. Però comunque, cioè, visto che adesso, diciamo, Pixar è diventato Disney, in un certo senso. Eh sì. Perché grazie all'acquisizione comunque sono diventati un'unica cosa. Forse anche per quanto riguarda la news precedente, il fatto che comunque comincino a che ha influito sì, a battere il ferro finché è caldo, non lo so. Cioè c'è il rischio che veramente i film i nomi dietro sono quelli. Bisogna vedere se la Disney può fare pressioni su questo tipo di aspetti. E comunque i nomi sono confortanti, perché c'è... Sì, appunto. Al di là del fatto che... Come? Sembra non sia cambiato, almeno da quel punto di vista. Nel senso, c'è stata la fusione, ma mi sembra che gli abbiano lasciato autonomia. Sì, ci sono sempre i soliti Brad Bird, Andrew Stanton, cioè tutti quelli che hanno fatto... È imposto di... Non puoi sapere, quello non lo so. Magari no, li fate voi, continuate a farli voi, però... Fatene uno in più di questa saga perché ha venduto, fatene uno in più di questa. Può essere che hanno già influito solo sull'aspetto commerciale. Però io parlavo più che altro di un futuro remoto, non di un futuro prossimo. Vabbè. Nel senso che è probabile che se continuano a vendere i brand Pixar ci sarà una situazione molto simile a quella che ha descritto il Monco poco prima, insomma, poco fa. Beh, sì, bisogna vedere come va questa tua storia, anche. Allora possiamo anche lanciarci. Mettere una croce sulla Pixar. E quindi una condanna, che andrà bene sicuro, e se va bene dico, buono, facciamo anche Wall-E 2 e via. Beh, però è anche vero che non è un successo solo economico, eh. Diciamo anche che anche la storia è sicuro la storia 3 ha quasi il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Ma perché quando cito Rotten Tomatoes tutti in alberi? Cioè, non capisco. Non perché vuole Bibbia, che crei un tuo parere. Non è la Bibbia. Non è, no, ok, non è la Bibbia, però in ogni caso, se un film ha il 52% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, quasi sempre è una cagata. E il fatto che comunque la critica americana intera gliel'abbia promosso, ora vabbè, gli americani più delle volte mostrano un cattivo gusto. Un cattivo gusto enorme, come ad esempio quando hanno abbocciato Changeling, ad esempio, per citarne uno. Vabbè. Però è un film che non è stato capito. Beh, dalla critica americana no, sicuro. No, anche dagli spietati. Segnaliamo il sito gli spietati, evitatelo come la peste. Ma sì, dai, facciamo amici gli spietati, dai. Ma meglio. Sono quattro segaioli chiusi in una stanza che guardano film del cazzo. Hanno ma... Sono anche otto. Anche otto. Vabbè, cambiano i nomi perché sono sempre loro. E hanno, sì, hanno invidia della gente brava, della gente che ha un po' di mestiere. E allora scrivono cattivi. Gli spietati. Otto a Red Belt. Otto a Red Belt. Miglior film dell'anno, Red Belt. Anche una pazzesca. Artis e Red Belt voli più alti dei film di Eastwood. Sì. Hanno recensito male anche Bastardi senza gloria parlando di altri film. Finale è quella, sì. Non hanno visto il film, ma lo recensiscono un film vecchio. Sì, sì. Vecchie ruggini. Sì. Tra il duo di Novara e gli spietati. E in alcuni periodi dell'anno il sito è anche pieno di Trojan. Sì, è vero, il Google lo blocca. Qual è la prossima notizia? Che ci sta preparando il nostro maestro, Allora, il prossimo Monco, che era in una fase di creatività estrema, ci ha proposto un altro bellissimo argomento, ovvero, vista l'uscita recente di A-Team al cinema, i remake a che cosa servono? È il flop. Cioè, flop. Non è una domanda poi così banale, perché... Ok, c'è stato un periodo in cui i remake hanno tirato parecchio dal punto di vista dei guadagni, però almeno per quanto mi riguarda saranno un paio d'anni che vedo i remake floppare clamorosamente a destra e a sinistra. Però perché si continua a fare remake? Bisogna fare una distinzione tra i remake di origine europea o extra statunitense. Quelli europei sono peggio perché sono proprio uguali, le stesse inquadrature. Vabbè, questo non è neanche poi un remake, è una trasposizione, cioè un'idea loro brutta fatta in chiave cinematografica. Nei team, sono neanche sbattuti a prendere un'idea europea buona. Ha detto prima il marchio che piaceva una volta. E... Vabbè, il fatto è questo, però, cioè, perché piuttosto che acquistare, diciamo, il film europeo e distribuirlo in America, vai a fare il remake del film europeo? Cioè, che senso ha il remake? Il remake americano? Non devi pagare gli sceneggiatori, hai già la storia, hai già l'idea. No, il perché. Sì, ma hai già il film, no, cioè, allora, basta acquistarlo. È una produzione più veloce. Lasciatemi parlare. Allora, perché gli americani non hanno una scuola di doppiaggio decente, perché non sono abituati a doppiare i film li fanno loro e non li doppiano, e quindi non li doppiano. Allora, il film europeo o extra statunitense dovrebbero sottotitolarlo, ma gli americani che vanno al cinema non vogliono leggere al cinema, quindi lo rifanno completamente, lo rifanno loro. Perché hanno i soldi. Il film è un altro discorso, però. No, infatti sto facendo la distinzione. No, certo, sì. Infatti bisogna, visto che lui chiede perché si fanno, bisogna prima distinguere tra quelli di remake europei e quelli invece americani. Quelli americani perché non hanno idee. Quella è un'altra cosa, che il remake, sì, americani è più comodo per gli americani, ma poi arriva in Europa e gli europei si vedono anche il remake, per cui è una cosa che vende a prescindere. È anche una curiosità, anch'io quando c'è un film che mi piace, il remake tendo a guardarlo comunque. Tipo, cioè tu hai visto Quarantena, quindi. Esatto, per esempio, no? Per curiosità uno lo guarda, magari non paga, magari lo vede in TV, però sai, c'è la curiosità, come, cosa hanno fatto, se mi è piaciuto l'originale voglio vedere cosa hanno fatto, anche se in teoria non te ne frega niente. E poi a parte il mio ragionamento, in generale i remake li vanno a vedere in molti comunque, nonostante i flop. Ricordiamo che Quarantena è il remake di REC. Esprimo un giudizio abbastanza pregiudizievole. Vedete, guardate REC e non guardate Quarantena. Sbaglio? Sì. No. Beh, insomma. Non guarderei neanche REC. No, Quarantena è fatto troppo bene. E quello è il problema. Vabbè, ma è anche brutto. Sta parte. No, vabbè, sì, a parte quello. Però. Aspetta, chiediamo prima una cosa. A voi è piaciuto REC? Certo, sì. No. Bellissimo film. Certo, no. A Darkman non è piaciuto. A perché non è piaciuto REC? A me non è perché non è piaciuto? Sì. Perché non mi è piaciuta proprio l'idea del film, cioè del mockumentary, diciamo, non ti piace l'idea, quindi neanche Cloverfield. No, però no, quello te l'ho apprezzato di più, no, dei rec, non mi è piaciuto proprio il tipo di horror che hanno messo in piedi, ma adesso non così. Sei senza cuore. Senza cuore. Questa sì, la tagliamo, non... questa la tagliamo. Beh, secondo me... Ma, no, però è vero, la cosa delle possessioni, cose così, ha rotto un po' le palle, però almeno la presentazione sì, no, quello... è nuova. Ma io penso che comunque non sembra nulla di nuovo fondamentalmente REC, cioè non è la fine, con cioè... l'esorcismo fonde due idee stravecchie le... no, aspetta, però da un punto di vista, ok, da un punto di vista contenutistico sì, ma penso che siamo tutti cioè siamo d'accordo anche che formalmente tanto, sì. È comunque qualcosa di nuovo, forse sì. Viene dopo comunque, mi sembra comunque che riprende da tutto il cinema, cioè già fatto altri horror, soprattutto dei B-movie un po', certo, rivisto. È un film sugli zombie, in fondo, no? Sì, ma appunto, il punto di forza non è cosa fa. No, l'ho capito, solo che non mi ha preso per nulla. Anche da un punto di vista formale, dici tu. Non dico che è brutto, solo che non è niente di che. Cioè, puoi benissimo evitarlo, poi se sei un appassionato di horror, vedetelo. Ma se non sei un appassionato... Anche perché se sei un appassionato di horror, ultimamente hai da piangere, quindi... Vabbè, se ti capita un progetto come REC, sinceramente. Però visto che hai messo la classifica degli incassi, è uscito Drag Me to Hell, adesso qua a molti non è piaciuto. Sì. Però che incassi ridicoli ha fatto. Quindi quando esce l'horror buono non lo vanno a vedere, allora non è un problema dei film, come al solito è il problema del pubblico. Drag Me to Hell già però è diverso, cioè non c'entra niente proprio con REC. No, dicevo, però parlavamo parlava di horror in generale. A livello degli horror, sì, è vero, è in calo ma vertiginoso da 30 anni. Però quando esce l'horror buono non mi sembra che si vada a vederlo, anzi. Appunto. No, ma alla fine penso che neanche REC abbia fatto incassi con gli stratosferici. No. Cioè, è stato il caos e il caos. Sequel, però, hanno pure fatto un sequel, però, quindi abbiamo abbastanza. Mi hanno detto peste e corna a destra e a sinistra, quindi sinceramente non sono andato a vederlo. Non so se voi l'avete visto il seguito, no. Di REC. Pessimo, meno valido del primo, un po' più ridicolo. Loro idea, ritmo diverso, insomma. L'idea era bella all'inizio, poi di farne un seguito non era poi così interessante. Anche perché bisogna cambiare tutto. Le telecamere diventano due, la protagonista è, vabbè, non si può spoilerare, però nell'uno. Niente. Vabbè, il fatto è che comunque. No, dicevo che tornando al discorso dell'horror, buon horror che non fa incasso, però questo penso sia un discorso che si può applicare, diciamo, a tutti i generi, cioè anche la buona fantascienza non fa incasso. No, era solo per dire che non è un problema di film, ma di pubblico. È in dei generi più che altro, sì, faccio una grande incasso. Certo. Che quello, poi uno comunque si aspetta sempre il peggio del peggio, quindi non va a vedere neanche quelli che potrebbero essere film buoni. Però comunque... Resta comunque il punto interrogativo iniziale, a che servono i remake, visto che neanche al botteghino fanno... I remake possono essere interessanti, dipende perché lo fai il remake, se lo fai solo a livello economico... No, no, io parlo proprio da un punto di vista economico, perché cioè, economico, cioè... Parto dalla tesi, ma che il film remake non tira più, da un punto di vista degli incassi. Perché continuare a fare i remake? Perché evidentemente in qualche abbiamo modo... Abbiamo spiegato. Sono proprio finite le idee, quindi... Sì, anche perché se guardi adesso è uscito anche il nuovo Karate Kid in America. Ah, sì. È un altro. Quello è incassato, però. Però quello è incassato, se non mi sbaglio. Ma dicono anche che sia buono. Sempre Rotten Tomatoes, la Bibbia. Cioè, il figlio di Will Smith è quello col figlio. Non è la Bibbia di Alessio, maledetto. È comunque un 69%. Io ho visto 30 secondi da Letterman ed era davvero penoso. Ma penoso. Ma è quello col figlio di Will Smith? Sì. C'è una scena che c'è da dire che Pong con i vecchi cinesi al parco ed è davvero ridicola, per cui... Però nemmeno l'originale non è che fosse questo capolavoro, insomma, l'originale. Il film di Will Smith, insomma, non è, e poi non è neanche Karate Kid, leggevo che è sul Kung Fu. L'hanno chiamato così solo per omaggiare... No, è vero, l'hanno chiamato così solo per omaggiare il consulente, il film è tutt'altra roba. Kung Fu Kid sarebbe stato orribile. Sì, appunto, però qui è veramente il nome, loro hanno detto per omaggiare, non omaggiare un cazzo, hanno preso il maggio. Ma tra l'altro il figlio di Will Smith sembra abbonato ai remake scarsi, eh. Ricordiamo sì. Ultimatum alla Terra, è stato un prodotto assolutamente lui... inutile. È il remake di Steven Pinar, il centrocampista del Sudafrica, identico, no, ma come no? Ho controllato e Wikipedia dice di no. Wikipedia dice, e invece Rotten Tomatoes dice di sì, quindi ho vinto io. No, ecco, prendiamo il remake di Ultimatum alla Terra, perché farlo? Perché quel prodotto lì, quei film vecchi, molti giovani non l'hanno visti, e allora glieli rimetti adesso con tanti effetti speciali del cazzo, magari lo vanno a vedere. Ecco un altro motivo per cui potresti anche interessare al vecchietto che magari l'ha visto quando è uscito. No, non vanno al cinema i vecchi, non vedono. Io l'ho visto, però io li vedo i vecchi al cinema. Il catastrofico va sempre molto, quindi è un fuso. Era quella dei mondi, è rifatta da Spielberg. Sì. Che poi lì come non fastidio, però è sempre un remake. Vabbè, passiamo ad altro allora, dai. Comunque abbiamo stabilito che il remake non serve a un cazzo. Tanto poi è un tema che ricorrerà, no? Ma che senso di diversione non è male? Che dipende, che detto a livello economico, lo stava di prima, poi mi sono fermato che a livello economico a me neanche mi interessa, però a livello delle idee, cioè magari un regista che prende un film di 5 anni fa e lo rifà sotto un altro punto di vista può essere interessante, magari prende la stessa sceneggiatura o comunque simile, la modifica, non lo so, fanno un lavoro tra di loro e esce un altro film. Può essere se ti avevo fermato paro mio. Se ti avevo fermato c'era una ragione, insomma. Va bene questo che ho detto. No, dai. Beh, ad esempio c'è, non lo so, il remake che ha fatto Haneke di Funny Games. Beh, che c'entra? Quello l'ha fatto è un po' inutile, solo per rendere esempio. In America. Però l'ha rifatto uguale. Sì, appunto, cioè... Non ho capito però è un esempio, diciamo, un esempio di regista comunque impegnato, in un certo senso impegnato, che fa un remake comunque inutile. No, inutile no, a lui e alle sue tasche è stato utilissimo. Sì, ma al di là di quello, adesso il discorso economico è chiuso, stiamo parlando del discorso qualitativo. Vabbè, allora l'ha rifatto perché voleva farlo conoscere agli Stati Uniti, al di là del motivo economico, perché il film negli Stati Uniti non è mai arrivato, e quindi... Certo, hanno tutti una bassissima opinione del pubblico statunitense. E beh, no, è che... se la sono creata a loro, però. O glielo dai sottotitolato, o glielo dai in lingua originale, allora non piace. Allora glielo devi rifare. Un grosso dispendio di risorse, sia economiche che artistiche. Secondo me è inutile. Secondo me no. Di per sé il remake è inutile, cioè... No, ma secondo me c'è qualche traffico dietro, perché come dicevi te, non incassano neanche tanto, però continuano a farli. Per cui secondo è me riciclaggio di soldi sporchi. No, non lo so, sai, funzionano questi... Cioè, qualcosa dietro c'è, no? Non come mai continuerebbero a farli. Magari anche gli stessi produttori ci perdono magari milioni pure. Per cui secondo me dietro c'è qualche motivo economico che li fa continuare. Perdono abbastanza. No, ma secondo me semplicemente devono fare... Devono comunque impiegare risorse, le major, nella produzione dei film. E secondo me sono proprio finite le idee a Hollywood. Ma secondo me fa comodo così, che siano finite le idee, perché appunto spendono meno tempo. Sì. Cioè un remake lo fai in molto meno tempo, soprattutto certo. Computer grafiche cazzate. Un tanto certo poi c'è posta. Comunque il blockbuster che incassa almeno pochissimo, esce in un attimo. Poi esce in un attimo anche in DVD, esce il film comprato, esce sulla TV via cavo, a pagamento, il cazzo che vuoi. In un periodo breve, comunque le idee integre, perché noi parliamo di incassi al cinema. Però questi sono film che vendono soprattutto a chi non lo va a vedere, perché appunto è un remake, un film commerciale. Ci spendo meno, non noleggio a 4 euro, lo vedo su Sky. Sì. Quindi sono film che... Costa poco alle major e poi comunque recuperano anche l'investimento. Blockbuster tipo, non lo so, Transformers che incassa 8.000 milioni di euro, o Iron Man. Cinema, per fortuna, però nel senso sì, comunque è un brand che vende sulla lunga distanza. Quindi sì, i remake non pagano nell'immediato, ma secondo me convengono. Ok, vabbè, passiamo al prossimo argomento. Ci siamo collati l'onere di fare un punto della situazione sullo stato qualitativo ed economico del cinema italiano. E come sta il cinema italiano? Bah, vive, sopravvive. Arranca. È sempre sì. Non so, io dopo... Si parlava di grande rinascita del cinema italiano dopo il successo di Gomorra, il Divo. Ma io, quando fanno successo dicono sempre rinascita, anche qualsiasi cosa che fa successo è rinascita, può anche fare però... successo lo primo merda rinascita. Non so, sarà stata una coincidenza, però da quando comunque è uscito Gomorra e il Divo, anche autori, non lo so, cito ad esempio Ozpetek, io di Ozpetek non ne potevo più, cioè continuavo con quelle cazzo di tavolate e l'ultimo penultimo film, quando era Saturno Contro, l'ho odiato con tutto il cuore proprio. Eppure Mine Vaganti esce dopo Gomorra e il Divo, che segnavano la rinascita del cinema italiano, e vabbè, ma è diverso da Saturno Contro. Sì. Appunto, cioè sarà una coincidenza, però effettivamente il periodo post vittoria a Cannes di Gomorra e il Divo per molti autori ha segnato una sorta di rinascita. Primo Ozpetek, poi non lo so, anche ho visto Fortapask, che è stato un buon film. Vincere di Bellocchio, che non è stato male. La prima cosa bella, La nostra vita, che è uscito, che è ancora nei cinema, di Daniele Lucchetti. Comunque c'è stata una... Qualcosa che non so, più buono esce sempre, è sempre uscito. Poi comunque il problema fondamentale è che la gente va a vedere più che altro, più che la qualità, alla fine è quello il punto. Cioè? Se poi non ti va a vedere, non incassano, e quindi non c'è, cioè, un macchinario. Poi vabbè, poi magari però esce comunque Baria, che dovrebbe essere il film blockbuster, e comunque non guadagna un cazzo, perché hanno speso 25 milioni per produrlo. Se non poi guadagna Baria il tornatore, poi è normale che quello si deprime, no? Chi deve... Vabbè, ma alla fine qua in Italia incassa solo il cinepanettone, non e poniamoci il problema economico, dai. Se invece incasserà, finché incassa solo quello, nessuno si prenderà la... Fin qui ai festival vengono discussi, i telegiornali ne parlano, si pubblicizza, si fa l'orgoglio nazionale, cazzate così, eppure non cazzano. Vabbè, però secondo me vedono i festival, basta, fanno gli incassi, c'è la sala piena al festival, l'applauso, l'ovazione e basta, cioè, non c'è la risposta del pubblico. La memoria è corta. Avete un po' la visione distorta però del blockbuster, cioè il blockbuster serve? Vabbè sì, perché certo. Comunque senza il blockbuster l'industria non va avanti. Ma mai che nessuno c'ho contro combatto. Chi c'ha. Io non c'ho nulla contro il blockbuster. Non so, hai parlato sul cinepanettone. Per carità, dal punto di vista qualitativo. Non è la qualità il problema, non era quel problema del blockbuster. Poi blockbuster solo in Italia. Sì, beh, vabbè, ma esistono anche. Cioè, c'è anche il cinepanettone americano, non mi ricordo qual era il regista, ma esisteva, era un regista di colore che faceva solo film di genere, sul genere appunto del cinepanettone, quindi non è un fenomeno strettamente italiano. No, oddio, per fortuna. Beh, sentami solo lì. Ma noi siamo cittadini di mondo, perciò... Questo per fortuna. Il panettone è solo quello, nel senso, solo quella formato, quella struttura. Invece fuori magari hanno anche un po' più di varietà nella spazzatura. Sì, sì. Ma alla fine comunque è l'unico, proprio... sì, effettivamente è l'unico blockbuster italiano è quello. Cioè, il film no, estivo, perché c'è quello vacanze A, poi c'è Natale A. Però no, quello vacanze, quello sempre... delle vacanze, quello estivo comunque mi sembra che non lo fanno più perché ha floppato quello di Vanzina. Sì, senso, sì perché d'estate non ci va nessuno al cinema per quello. Sì, ma adesso c'è un nuovo blockbuster. Adesso c'è un nuovo blockbuster italiano. È uscito, vabbè, non nuovo, ma è uscito un po' di tempo fa. Che è un remake, quindi ci no, un remake no, è un sequel. Quindi ci agganciamo anche alla mancanza di idee. E Baciami Ancora. Quello ha incassato tantissimo. E a Shanghai ha vinto il premio. Come? Non mi ricordo. Scusate, cerco un attimo su internet. Ma ha vinto uno dei premi più importanti dello Shanghai Festival, che sembra tipo il più importante festival asiatico, del cinema asiatico. Leggo un attimo la notizia di Shanghai. Sì, tanto dal sito lachiacchiera.it. Baciami Ancora, Muccino vince al Festival di Shanghai. Trionfo per Muccino al Festival di Shanghai come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attrice protagonista Vittoria Puccini. Con questi premi, Baciami Ancora di Gabriele Muccino, il sequel dell'ultimo bacio, ha letteralmente sbancato la 13ª edizione del Festival di Shanghai. Mica pizza e fighi, cioè mica cotica. No, il fatto è che comunque gli asiatici da un punto di vista artistico, sì, ma da un punto di vista artistico hanno artisti di tutto rispetto comunque. Mi sorprende che abbia vinto. Ma hanno anche un cinema spazzatura di tutto rispetto. Quindi. Beh, ma ha vinto anche... proprio in generale, non solo per film estero. Qua non parla di film estero, parla semplicemente di miglior film, miglior sceneggiatore e miglior attrice protagonista. No, non c'era nessuno in quel. Che il motivo era per quello. No, è perché loro l'hanno visto senza sottotitoli in lingua originale e hanno capito una cosa loro e allora hanno detto, è bello. Poi quando qualcuno glielo spiegherà, no, abbiamo sbagliato. Anche, a parte quello, il sequel, ma anche in America hanno fatto il remake dell'ultimo bacio, c'è qualcosa che non va. E beh, Muccino sono presi. Che poi Muccino sono proprio presi, sì, per cui contenti loro. Non capisco, c'è anche un incentivo al regista che era pessimo, no? Cioè, non solo fa molti film in Italia, lo chiamano anche all'estero a lavorare con uno degli attori più pagati di Hollywood e fa cose due. Il paragone, cioè il confronto Italia-Francia. Francia, Gondry, che abbiamo visto prima, e l'Italia, Muccino. Io ancora sono curioso il fatto che li diriga lui, secondo me lo mettono seduto e chiamano un altro regista, tanto anche perché a livello tecnico non sono nulla, quindi... Beh, però il confronto Italia-Francia lo perdiamo anche, penso, dal punto di vista di autori impegnati che non vanno a Hollywood. Qualsiasi cosa perdiamo. A parte il calcio. Anzi, anche il calcio, perché abbiamo fatto peggio. Abbiamo fatto peggio della Francia. No, sì. Uguale. No, la Francia è uscita terza classificata. No, terza la Francia, guarda meglio. Il Festival di Shanghai è l'evento festivaliero più importante del continente asiatico. Prevede 8 premi principali assegnati nella sezione competitiva. Miglior film, premio della giuria, miglior regista, miglior sceneggiatura, miglior attore, miglior attrice, miglior direttore della fotografia e miglior colonna sonora. Quindi sono premi, anzi qua, miglior colonna sonora ci segnala filmitalia.org, non sonora. E quindi sì, quindi sono premi assoluti, non, certo non si parla di premi. Certo che è sonara, sona, mica sono. Stona. Voce del verbo sonare. Certo, con tanti bei film usciti quest'anno in Italia. È così bello che io l'ho preso. Io l'ho rivisto con i sottotitoli asiatici, ho detto che è bellissimo. E detto, porca vacca, magari l'Italia facesse questi film, altro che... No, ora è italiano, Fiol. Il remake originale è molto meglio. Ma non sparliamo di gente che non può controbattere, dai. Gli ascoltatori non capiranno, dicono chi è Fiol, da dove viene. Spiegheremo nel blog. Ma questo t'aiuzzo tutto, ma questo è scherzato. Un glossario per chi non conosce. Tutti i personaggi citati. Al di là di discorsi sul visibilità, comunque, guadagni, da un punto di vista qualitativo, secondo voi, del cinema italiano, che cosa, qual è il meglio, qual è il film più A me Fortunato rappresentativo, Ruota secondo voi? non mi piace, più che altro. Che è un po' troppo, cioè, un po' ristagnante forse. Cioè, io comunque vedo sempre cose abbastanza tutto qua, cioè non c'è qualcosa che si cerca di differenziasse tanto. Cioè, alla fine comunque sì, c'è il film Un po' bello, provinciale. è bello, sì, è bello, però alla fine è il classico film italiano. Cioè, non è che c'è qualcosa Ah, che dice, oh, questo aspetta. film è... Non è solo adesso quello, no? Pensa, cioè, guarda un po' anche il Sì, passato. no, infatti, Che dico, però registi sarebbe famosi. ora... Sarebbe ora qualcosa di diverso, penso, no? Sarebbe ora nel C'era il 2010, regista di siamo. Fellini, c'era Fellini che faceva i film di Fellini, c'era Francesco Rosi che è uno dei miei registi preferiti, però faceva film tutti uguali, nel senso la struttura era sempre quella. Sì, è Ma vero. tu critichi in particolare il fatto che non esista film di genere? No, no, non esistono pure film di genere, cioè soprattutto prima ne facevano abbastanza tra l'horror e le cose varie. Solo che c'è, cioè, qualcosa di diverso, che dicevo, sto film chissà da dove viene, mo, a parte magari, vedi che magari è in Italia, però comunque se vedi un film italiano dici, ecco, questo è il classico film italiano, non si scappa, cioè lo vedi Anche subito, gli lo altri, inquadri. anche il film No. spagnolo, dici questo è spagnolo, quello tedeschi Insomma, chi se ne soprattutto, il frega dei tedeschi, francese. dico, cioè cerchiamo di differenziare, di fare qualcosa di diverso, cioè No, proprio vabbè, ma ognuno esce l'italiano dal deve classico. fare il film italiano, cioè l'identità nazionale comunque credo che sia importante da un punto di vista artistico. Secondo me uno dei film più belli, ad esempio, Sì, è La però. nostra vita. La nostra vita è alla fine comunque un film, diciamo, terra-terra, da questo punto di vista, perché comunque parla di una realtà che è strettamente italiana, che è quella degli operai stranieri in nero al cantiere, è quella del magna-magna, è quella Ma non parlo tanto del dell'especulazione contenuto, edilizie. parlo di come viene portata il film sulla La pellicola, tipo dove forma. stava il divo, la forma, tipo il divo, che comunque è il film su Andreotti, per l'italiano è così, non è che, cioè, non sembra, cioè, non, tecnicamente, un solito film italiano, cioè, Sorrentino è un regista comunque che sa differenza abbastanza dalla Però massa. il titolo di originale ha delle cose che non sono originali, nel senso, la cosa dei titoli di testa che era molto carina, Sì, in ma non generale si vedono, cioè, dico, però, capito, qua è non è che si italiano, vedono però è tutti i roba film. vecchia. Sì, però almeno non si vedono, cioè, in tutti i No, film in italiani. Italia è nuovo sicuramente, nel senso, Vabbè, però con una scusa. messa in scena un po' diversa, questo vabbè, sono d'accordo, però nel senso anche lì siamo indietro, perché il divo è bello, per carità, ha uno stile accattivante, però se si va a guardare nel dettaglio, insomma, è roba riciclata di anni. Qualcosa di nuovo, più o meno, in Italia è arrivato e non è stato cagato da nessuno, però è un progetto un po' originale, almeno per l'Italia, che è Le ultime 56 ore, quell'action Ah che sì, sarà uscito in tre cinema, però almeno è quello qualcosa. non ne ho mai sentito parlare, infatti. È un Quello. action italiano e dicono ho fatto anche bene. Però sono tanto d'accordo perché, non lo so, sì, la messa in scena tu dici che sia troppo provinciale, troppo legata, Tipo diciamo, a. Tornatore, poi questo lo sappiamo tutti, che fa lo stesso film da... Cioè, non... basta, Vabbè, basta. però ad È esempio, non lo so, Tornatore è un po' lo Spielberg italiano, diciamo. sì. Cioè, con le dovute proporzioni, nel senso che comunque ha sempre fatto il blockbuster, Tornatore. Sì, chissà C'è stato come... casomai un periodo in cui ha avuto I un film per picco famiglie. qualitativo. No, No, però potrebbe anche cambiare un po' stile, un po', non lo so. vabbè, ma alla fine, cioè, qual è l'autore che cambia stile? Quanti? Cioè, se ne contano sulle dita di una mano, secondo me. No, Adesso vabbè, nessuno, oh. proprio. Ma Tornatore non cambia neanche la storia, è quello il problema. Stile, lo Vabbè. stile lasciamo perdere. Vabbè, ma Tornatore, non parliamo di Tornatore, non prendiamolo come esempio, cioè, prendiamo esempi. Vabbè, ma è lui che va agli Oscar, è lui che va ai Golden Globe, è lui che va di qua e di là, è lui che conosce Ma no, ma persone non è vero, all'estero. scusa, perché non è vero. No, beh, ma lui è uno di quelli cioè, agli Oscar stava andando lui. Stava andando lui, però è anche vero che 2 anni prima stava andando Gomorra, ad esempio, che No, beh, sì, certo. non è sullo stesso tono, diciamo, No, sì, perché però... quell'anno non c'era Tornatore, che se c'era Tornatore No. sicuramente andavano su quello, Eh sì, l'Italia punta solo su Tornatore. Quando esce il film di Tornatore è un evento. Vabbè, Uno ma dei perché top... comunque Gomorra e il Divo premevano su quello, sicuro. Però perché puntano su Tornatore? Perché sanno che comunque Tornatore piace all'Academy, perché già l'ha premiato una volta e E perché quindi... tendenzialmente sarebbe anche Che ben benigni, disposto sì. a premarle una seconda volta. Però sono rimasto indietro perché alla fine adesso l'Academy vuole darsi un tono e... Guarda quanto, beh, ma infatti il... l'ha dimostrato. Ma sì, ma era... sì, ma è qualcosa di... No, vabbè, non dico che ci riesca, assolutamente. Vabbè. Cerca di darsi un tono, vorrebbe darsi un tono, sta premendo tantissimo sul cinema indipendente, costruisce da zero vittorie pilotate come quella di Art Locker, totalmente ingiustificata, di quest'anno, che, boh, hanno addirittura ripescato un film del 2008. Sì, per... vabbè, ma lì non è un film indipendente, vogliono far vincere il film indipendente, vogliono far vincere è quello di cui parla. Che indipendente no, no, no, no, no, no, no, aspetta, quest'anno volevano far vincere una donna, è palese. Vabbè, anche quello, sì, ma cosa non c'entra quest'anno... niente il che è indipendente. Loro non credo neanche che lo sappiano. Ma lo sanno benissimo, no, ad esempio, no. Ma è un trend che va avanti da qualche anno, non è una cosa... No, no, i film indipendenti vincono solo il miglior sceneggiatura, sempre. Crash Sideways... Crash ha vinto tutto. Vabbè, ecco, devi sempre... mettermi in difficoltà, sì, effettivamente Crash ha vinto tutto e poi da lì hai ragione tu, hanno vinto solo, c'è stato un premio che hanno monopolizzato, che è quello per la sceneggiatura originale, che poi l'hanno dato alla sceneggiatrice di Juno, che è una cafonazza paurosa, che poi ha dimostrato il suo vero valore col film, l'ultimo film del, con Megan Fox, che è una cagata pazzesca. No, ma lì è il fattore Megan Fox, non puoi fare un film bello con Megan Fox, è lì senza sì, o lei. Cioè, o vuoi lei bella o vuoi il film bello, non puoi avere entrambi, quindi lascia. E tra l'altro ha floppato clamorosamente anche il film con Megan Fox, cioè puntano tutti sulla figura di Megan Fox, quando Megan Fox forse è incularsela, cioè anche la produzione di Transformers non ci ha messo niente a farla fuori, senza proprio remore. È passata di moda. Sì, sì, già. Speriamo che faccia la fine di Marilyn Monroe come la sua eroina. Torna di moda Nicole Kidman e il suo Botox. C'ho sta fissazione, dovete compatirmi. La sparata che ha fatto sulla donna, su non svilire la figura femminile, ti ricordi? Sì. No, ricordo Napolitano che ha fatto una cosa del genere, non Nicole Kidman. No, mesi fa, si è lamentata delle pubblicità, della figura della donna, come viene usata, come invece adesso se ne esce, vabbè. E lei invece che non riesce più a recitare perché è piena anche con canotto. Anche lei ha fatto le pubblicità abbastanza, insomma, non dico che si deve. Sì, sì. Vabbè, ricordo la pubblicità di Chanel sulla falsa riga di Moulin Rouge, che era imbarazzante. Stava zitta, insomma, ecco. Con tutto il bene che le voglio, poco, ecco. Beh, ha fatto le sue buone cose, però sì, è passata, anche lei è passata. Ha fatto parecchie buone cose. Sì, sì. A parte tipo la scena di nudo con Tom Cruise, porcone. Ma stiamo divagando, passiamo alla mia pippa mentale. Allora, esponiamo il mio problema, la mia pippa mentale. Stavo leggendo il libro di Alessandro Baricco, Omero e l'Iliade. Anche si questo è un remake, diciamolo. Sì, sì. Più che remake, questa è una... sì, una rilettura, diciamo. No, una rilettura dell'Iliade. La storia, appunto, dell'Iliade viene narrata attraverso dei monologhi dei vari personaggi che si muovono sulla scena della conquista di Troia. Personalmente ve lo consiglio, è molto bello. L'unica cosa che non mi sono piaciuta è un po' una certa ridondanza di fondo, che però credo sia tipica dello stile di Baricco. Lo è. E al di là di questo, comunque è un libro molto interessante, è ricco di momenti anche commoventi, emozionanti. C'è, cioè, ad esempio la morte di Ettore, spero di non spoilerarla per nessuno. è un momento molto toccante, mi è piaciuto molto, insomma, sì. Beh, il problema che voglio illustrarvi è un altro. Durante la lettura comunque di un libro, come fanno tutti, insomma, quando leggo amo lasciare l'immaginazione a briglia sciolta, insomma. Quindi tendo, diciamo, a identificare personaggi e luoghi con personaggi e luoghi della mia memoria, non lo so, comunque robe che mi immagino io. E la cosa che mi ha dato fastidio durante la lettura di Omero Iliade è che non riuscivo a togliermi dalla testa Brad Pitt, Peter O'Toole, gli attori protagonisti del terribile film Troy di Wolfgang Petersen. E penso che concordiamo tutti sul fatto che sia orribile, no? Mm-hmm. Sì. Ottimo. Non lo so, ho avuto questa impressione, ho avuto quasi un brivido, mi è venuta voglia di bruciare tutti i libri da cui sono stati tratti i film per non incorrere nella stessa sensazione. E non lo so, voi come vi rapportate a questo fatto, insomma? Sarebbe, cioè, anche voi... sarebbe consigliato prima leggere i libri, poi vedere il film. Però, sì, se capita appunto di aver visto prima il film, va, dal mio punto di vista mi sento più a mio agio, so già i personaggi che volti hanno, poi gli faccio fare e li vedo esprimersi e muoversi in modi, cioè come voglio io, però che abbiano già un volto e siano già degli attori che conosco bene non mi dà nessun problema, anzi mi sento appunto molto più a mio agio. Io ragionandoci questi giorni penso che questo brivido, diciamo, sia dovuto al fatto che il film è brutto, a cui, diciamo, facevo riferimento fosse un film tremendo, poi non lo so, infatti, prima di verificare non lo so. L'epita, poi ti lamenti, insomma. Vabbè, ma anche tu l'hai visto, Troy, non fare lo stesso. Sì, ma io non ho letto l'Odissea di Baricco, Non è neanche hai letto l'Iliade, dai. No, nonostante sia faccia lettera, non ditelo a nessuno. Darkman, invece? Non legge. Io non leggo, no, non è vero, solo che non, no, mi sono mai ritrovato in cose del genere, solo con Harry Potter, cioè, mi è capitato per fortuna, quindi non so, non è una mia grande pippa mentale questa, cioè come dice il Monco, meglio leggere i primi libri nel caso, ma per il resto, boh, non è un grosso problema per quanto mi riguarda. Non ti poni questo problema? No. Allora, guarda Troy e poi leggi Omero Iliade, vediamo se... Allora... Leggi l'Iliade, vediamo se non cresci male. Io non me lo immagino, Brad Pitt. Non lo so, a me è sembrata quasi come se... Ti entravano quel nella testa. Trucco di Petersen, sì, esatto, come se quel trucco di Petersen avesse violato un luogo soltanto mio, diciamo, no? Che è quello della mia immaginazione. Non lo so, ho avuto una brutta sensazione, che poi, non lo so... Facendo mente locale non ricordo di altri libri da cui sono stati tratti film letti di recente. Pensando alle mie esperienze, Jurassic Park, Revolutionary Road, sì, la serie degli Hannibal, purtroppo i film sono anche belli, quasi praticamente tutti, quindi non saprei se il film brutto incide su questa cosa, non mi è mai capitato. Ma 1984, il film non era un granché. Però è il libro che è irraggiungibile. Sì, il film mi sono guardato bene dal vederlo, sia prima che dopo aver letto il libro, sinceramente. Non è bruttissimo, però, insomma. Ho visto le prime immagini, sembrava tanto prodotto tipo fiction italiana, roba del genere, insomma. Ma insomma, anche il libro che avesse questi spazi di ampio respiro, insomma, anzi, è anche abbastanza fedele. Quasi pellicola. Sì, beh, oddio, effettivamente non c'era tanto da... No, appunto, ma c'era nel film, insomma. C'è anche... Gilliam, che comunque c'ha ricamato sopra Brasil, che è comunque un grande film, almeno per quanto mi riguarda. Ha messo il suo stile. Comunque, per agganciarmi, visto che non ho detto... capita anche a me, soprattutto appunto, bisogna prima leggere i libri. A me è capitato con Blade Runner, inevitabilmente, anche perché sono abbastanza simile il libro. Però, intanto, gli autori più contemporanei sono, insomma, mi sembra, sono più carenti come descrizioni. Per esempio, a me capita di leggere dei libri tipo Dickens, che fa delle descrizioni spaventose, e lì non riesco a immaginarmi un attore, mi viene proprio in mente la faccia che lui dà. Invece su alcuni autori anch'io faccio questo lo stesso commento, ma non per forza sulle trasposizioni. C'è anche un libro qualsiasi, mi ci immagino, sì, un attore che mi piace, che si presta alla descrizione, quindi secondo me dipende anche da come è scritto. Dicevo l'altro giorno al Monco che c'è il protagonista della Torre Nera, Roland Shane, che praticamente è identico al padre della mia ex ragazza, e tra l'altro il padre della mia ex ragazza aveva anche le pistole, quindi... Neanche uguale a sì, avevo un certo timore a rapportarmi a quel personaggio. Vabbè, è bello anche questo, no? Ritrovi un volto familiare. Sì, sì, no, ma questo è bello, è immaginarsi Brad Pitt che sì, no, è bello. È sgradevole. Sì. È proprio quello che... ma forse c'è... Non ci sono anche altri film che hanno fatto... Cioè, no, probabilmente c'è... Sì, ma questo è il fatto che solitamente da un bel libro... È anche facile trarre un buon film, un film decente comunque. Sembra siamo prima del Signore degli Anelli. Mm-hmm. Alla fine comunque il film non è malvagio, non è brutto. Come può essere Troia, ad esempio. E, non lo so, Troia è forse il risultato del tedesco applicato alla letteratura greca. Non dipende dal libro, dipende dal regista, dal regista. Sì, sono addirittura film belli tirati fuori da brutti libri, quindi non è... Facci un esempio, dai. Non lo so, però capita, no? Allora che fai, parli per sentito dire, no, dai. Una cosa, cioè, sicuramente avrò visto pure qualche film tirato fuori da qualche brutto libro, cioè. La dico io, Blade Runner. Parlano tanto del libro che è superiore. Le pecore. Come? Sì, gli androidi. Gli androidi sono pecore elettriche. Sì, per carità, idea geniale, tutto, ma che palle, veramente scritto in un modo più piatto che mai. Secondo me il film strasupera, ma di brutto, a parte che vabbè, è un capolavoro, però nonostante il libro abbia la sua degna reputazione, secondo me è di parecchio inferiore. Sempre avuto l'impressione che facesse parte di quella branca della fantascienza letteraria che è una mattonata sui coglioni. No, questo no, so. Però è pesante, nel senso lui ha l'idea geniale dei replicanti, oppure del, insomma, questo contesto futuristico, no? L'animale artificiale. E queste idee qua te le ripropone, però è scritto a uno stile piatto, ha un modo di proportele abbastanza ripetitivo, nel senso... Ho trovato un'idea intelligente, beccata la ripetizione fino alla fine del libro, però secondo me ci hanno tirato fuori molto di più di quanto c'era nel romanzo. L'importante è che ci stanno film più belli dei libri. Sì, ci sono, è un luogo comune quello del libro. Capito? Anche qualcuno che dice che Shining, il film, a parte Sergio che è di parte, però... Basta fare riferimenti. Ovviamente lui. Beh, vabbè, lì comunque... Ma mi fa anche abbastanza diverso, io il film libro non l'ho letto, però sì, ma è lo stesso discorso che si faceva per Gilliam, lì comunque Kubrick ci ha messo tanto del suo stile, anche secondo me ha fatto un capolavoro. Se non mi sbaglio a Kubrick, il libro, cioè non è che gli andava tanto a genio, completamente. No, piaceva l'idea, no. Come tutto, prendi un pezzo, l'idea. E poi nel 2001 ci sono spazio, no? È libro. Vabbè, mette titoli di libri ai suoi film, così dai, no, diciamo. Insomma, lui se lo poteva permettere, no? Quindi, sì, sì, anzi. Ce ne fossero di Kubrick oggi. Ma questo è un film che io non ho visto, quindi dovete totalmente gestirvela fra di voi. Io sarò l'arbitro che vi farà domande scomode qua e là, perché è anche molto interessato dal film in questione. Stiamo parlando di Kick-Ass. Ora, io non so né non cast è in Italia, né diciamo. So solo che è diretto da Matthew Vaughn, no? Uh-huh. Che mi pare che fosse il regista di Stardust. Sì. Per il resto io non so niente. È un bel film Stardust, no? Sì, a me è piaciuto. È un bel film Stardust. Perché no? Non è un bel film Stardust? Sì, è un bel fantasy. Sì, ma... Oddio, a me è sembrato un film, diciamo, non eccessivamente pompato. No, quello no. Abbastanza sussurrato. E in questa sua delicatezza mi è sembrato abbastanza buono, comunque ispirato. Ma lo riguardo... Oddio, io ho letto... Ecco, questo è un caso in cui ci ricolleghiamo a quell'argomento di prima. Io ho letto prima il libro di Neil Gaiman. Ah, già, è vero. Alla fine il film è molto fedele, ci mette del suo, forse ci mette un po' troppo, è un po' troppo ammiccante al pubblico teen, diciamo, teenager. Il film? Forse, il film, sì. Ho avuto un po' questa impressione, però tutto sommato è abbastanza fedele e mi sembra anche abbastanza, non so, a me sembra abbastanza buono, poi comunque ne parleremo in altre puntate, dai. Mm-hmm. Perché il succo del duello di oggi è Kick-Ass. cioè Darkman che lo ha amato alla follia, l'ha visto 400 volte nelle ultime 46 volte, volevo vederlo pure ieri, poi non c'ho voglia, basta. Sì, lo rivedrò. Ieri era la visione numero 3, sarebbe stata in quanto tempo? L'avrò visto un mese fa. Mamma mia. Io in faccia, che l'ha visto tipo 7 volte in 2 settimane, non so cosa sia successo. Dall'altra parte del ring, con i calzoncini neri, abbiamo il duo di Novara, Monco Intrinseco, che invece ha odiato il film. No, non l'ha odiato, perché è un bel film, perché... raccontiamo un po' qualcosa del film prima. Tratto dall'omonimo fumetto di Mark Miller, abbastanza famoso nell'ambiente, anzi parecchio, credo, comunque non so, un fumettaro. Quel Miller? Mark Miller. Che non c'entra niente con Frank Miller. Tratto dall'omonimo fumetto, però cambia abbastanza il film senza fa paragoni. Comunque, se il fumetto è riuscito nel suo ambito, il film per me è riuscito, nel suo altro ambito, cioè quello cinematografico, praticamente, che è una sorta di mix, diciamo, tra l'action, la commedia, il film supereroistico che va tanto di moda in questi ultimi anni. E niente, è la storia di questo ragazzo che, poi a me ne piace molto raccontare le storie, comunque, che vuole diventare un supereroe, si chiede perché nessuno è mai diventato un supereroe. E quindi giustamente si mette la maschera e tutto il resto, e va. Ho sentito che il tono del film è abbastanza violento, cioè, caricaturale, ma allo stesso tempo abbastanza crudo. È crudo. Ma è una caratteristica del film, non è certamente un film abbastanza, diciamo, comunque per ragazzi, comunque, cioè delle 17, 18, 20 anni, comunque un film più o meno per quel pezzo tipo di pubblico, non è certo un film per bambini o comunque, cioè, diciamo 15 anni in su, 14 anni in su, 13 anni. Infatti sentivo che uno dei problemi della distribuzione anche a livello italiano fosse proprio quello del rating. Non lo so, comunque può darsi pure che in Italia vogliono farlo, vogliono... Chi è che ride? Che se lo vedano un po' tutti. Ma comunque non è un film. Monco rideva. Mo' aspettiamo, non so se vuole di qualcosa il Monco. Rideva, sentivo risate. E chi l'ha detto che ero io, scusa? Ti riconosco. No, non mi ricordo neanche più perché stavo ridendo, ero preso dal discorso di Darkman. No, ho parlato del rating, del fatto che comunque... Sì. Perché sicuramente vorranno che lo vedano più persone possibili, ma cosa che non è possibile perché è abbastanza violento e quindi... Però credo sia un problema più che altro americano, più che italiano, correggo il tiro. Perché mi sembra di aver letto che abbia incassato poco anche a causa del rating. Perché sono andate a vedere poche persone, saranno andate a vedere per sto fatto. Comunque ovviamente più il rating è basso e più possibili persone possono andare a vedere il film. Beh, perché effettivamente un film supereroistico punta anche a quella fascia di età. Anche Watchmen, infatti, non è che sia andato benissimo, perché alla fine ha incassato discretamente verso un blockbuster da più di 100 milioni, non so quanto. Comunque alla fine non è che abbia incassato tanto, anzi è stato un mezzo flop. Sì, ma la differenza è che Watchmen è una graphic novel famosissima, mentre Kick-Ass è uscito un mese fa il fumetto e nessuno se l'ha inculato. Ma non è vero, perché hai detto che nell'ambito non è vero, perché tu vedi Mark Millar, il disegnatore abbastanza famoso, cioè uno dei nuovi. Cioè prima c'erano Miller, c'erano Moore, adesso c'è sto Millar, ad esempio. Cioè. Sta Moore? Moore, come lo chiamate voi? Moore cinese. Alan Moore. Sì, vabbè, ma non sono paragonabili. Ma no, non so paragonabili. No, non so. Stavo semplicemente parlando di Tommaso Moro. Stavo facendo un ragionamento a livello economico io, sul fatto che hanno floppato entrambi. Comunque, cioè, non è che ci sarà antorati sulla. Cioè, il film è bello. Poi perché? Vorrei sapere perché invece non è bello. Cioè, dimmi tu perché non è bello. E leggimelo. Per scritto. Così sembra che non l'abbiamo detto perché. No, volevo specificare. No, è che. C'è stata un'esaltazione troppo grande su questo film. Sempre sul forum qui, non so, forum Games Village. Games Village, citiamo. Pubblicità, non è giusto. Comunque, vabbè, parliamo del forum di Games Village. Dove c'è stata un'esaltazione di questo film. Come c'è anche chi ha detto che e addirittura... Ma, però, scusa un attimo, penso che sia comunque un fenomeno non strettamente legato a Games Village, che proprio a livello di internet, comunque c'è stata una certa esaltazione. Ma non lo so, ma io le recensioni che ho letto solo in italiano non le saltano quasi nessuna. Comunque, ma a parte l'esaltazione, se il film è bello, mo che te frega dell'esaltazione. C'è chi l'ha detto che è meglio di Dark Knight, che è il miglior film sui supereroi, assolutamente, ha delle scene action che ne sono mai viste, e la madonna, non è vero questo, no, non è questo, però è un film, cioè, anche abbastanza diverso dal solito film sui fumetti, no? Cioè, non si è mai vista una cosa del genere classico. È anche questo, mi avete parlato come di una cosa rivoluzionaria, ma insomma, non vedo questa spinta, cioè... Ma no, rivoluzionario parodizza, no, però... quasi, perché alla fine è la originalità. Sì, il fumetto lo parodizza quasi, però... Ma scusa, in che cosa è buono Kick-Ass? Cioè, in che cosa dovrebbe essere buono secondo le teorie di chi lo esalta, diciamo? In quasi tutto, in tutte le, diciamo, come action è buono, perché comunque le scene d'azione sono girate bene, frenetiche, veloci, tutto quello che ti pare. E la colonna sonora, più che essere buona, comunque poi dipende dai gusti, comunque è abbastanza ben... adatta alla pellicola, soprattutto ogni pezzo nel momento giusto. Colonna sonora originale o... No, originale, pure Morricone ci hanno messo in mezzo. Sentivo di anche la canzone, qualche canzone da Kill Bill presa qua e lì. Mi pare Kill Bill. La recitazione non è buona, oggettivamente, si potrebbe dire, però è perfetta per il film, cioè per... Ho sentito che c'è Nicolas Cage, quindi sì, attento Nicolas a quello Cage. Che dici. Nicolas Cage con i baffi, Col buff è bellissimo Nicolas Cage. E senza capelli? Però, no. Piace. Cioè, in qualche punto devono metterci quei peli in più. Si interpreta questo personaggio completamente schizzato, abbastanza schizzato. E tu te vedi, sto Nicolas Cage travestito da una specie di Batman cattivo. Cioè, come fai a non innamorartene? Cioè, è impossibile. Io non capisco come c'è tutte perché queste critiche, cioè non è un film, bisogna prenderlo per quello che è, poi certo, è di Kick-Ass nuovo. Non è un film. No, è un film, è quello che non bisogna, non è un capolavoro del cinema. Ma no, appunto, non mi sembra di aver detto che è un film brutto, un film orribile, eccetera. Però non è quello, non è un film da 8, mettiamo, da 9 come è stato visto, come sono stati dati certi voti. È un film sufficiente. Sì. Spensierato, che fa passare bene una serata, però madonna, non mi sembra questo film, questo rivoluzionario, eccetera. È un buon film, punto, fine, non è altro. E poi una cosa importante, che comunque, come ho detto all'inizio, che c'è un film comunque fatto per chi è nato proprio negli anni 90, cioè un film pure l'attore del 90, il protagonista, cioè magari uno che è un po' vecchio, diciamo, dell'80, nel senso... non apprezza certi film. Ti sta dando del vecchio, sappilo. Aspetta, ma tu intendi 1990 o tutti gli anni 90? Perché sono dell'88, allora non lo so, sono in ritardo di 2 anni forse. Esatto, e mi hai detto niente. Non l'ho capito per quello, allora, perché 2 anni prima sono un altro. Boh, volevo fare una considerazione, diciamo, al di fuori del film, su quello che aveva detto il Monco. Comunque, tutto quello che tende a essere cult, diciamo, questa parola che viene abusata a destra e a sinistra, non so quanto meriti, diciamo, l'esaltazione, il prodotto cult, per definizione. Ma non è... cioè, anche mi interessa se non è cult o se non è cult. No, no, io dicevo... Il Monco ha detto non in generale, questa esaltazione, cioè comunque l'esaltazione è propria del film cult, dell'evento cult. Crea comunque troppe aspettative forse. Sì, magari. Però cioè, credo che sia un fenomeno strettamente legato all'esaltazione al cult. Spesso e volentieri è un'esaltazione non del tutto giustificata, sì, ma... almeno per quanto riguarda tanti prodotti che venivano definiti cult, tante pellicole che venivano definite cult che... ho avuto modo di vedere, sì, alcune decisamente, anche decisamente ben riuscite, però a volte sembra che si stia parlando dei capolavori del cinema, quando invece non è così, non lo so. È la colpa dei pischelli come Darkman, che appena vedono qualcosa dicono, ma questo è bellissimo, sì, ma, invece ma, se avessero cioè... una cultura cinematografica più ampia direbbero, vabbè sì, buono, ecco. Poi sono il primo. Sì, ma cioè, i pischelli non fanno testo, diciamo. Vabbè, non fanno testo. È qui che sta facendo testo. Ma non è un pischello il nostro Darkman. È del 90, è un pischello. Pure. 91. l'attore del 90. Racimoniamo le briciole qua. Mettiamo poi l'attore Aaron no, sì, Aaron Johnson. Vabbè. Concludiamo quindi, Kick-Ass, film buono. No, però non ho detto nulla. Non parlo. Allora, facciamo parlare intrinseco, infatti. No, sì, infatti... sono offeso. Questo film dai, per favore. Che si bagnano. No, comunque, no, non è che ho molto da aggiungere. Comunque ho premesso che allora, ho pensato l'esaltazione. Nel senso, i commenti erano parecchi entusiastici, non parlo solo del suo. Per cui può darsi che non mi abbia influenzato, però... No, se ne parla come di un film che rivoluziona, appunto, che è originale, ma non è originale neanche dove vorrebbe esserlo. Cioè, cos'ha di originale? Vuole essere una parodia, ma di parodie sui supereroi ce n'è a bizzarro. Ma non è proprio una parodia. No, sto dicendo in vari aspetti, è anche parodistico. Anche. E su questo aspetto non è così originale, nel senso, lo è rispetto ad altre pellicole, ma lo è relativamente. Poi... E la questione del ragazzo, no, ci si immedesima, sì, ma questo lo fa qualsiasi film sui supereroi basato su quel target, cioè anche Spider-Man farà pena, però il ragazzino che a un certo punto scopre... Kick-Ass non è rivoluzionario, è riuscito più che altro, cioè, questo è il punto. Sì, è riuscito, però nel senso, non è che faccia nulla di nuovo, non è che lo faccia in un modo nuovo, sì, action, cure carine, anche se... Finale, secondo me, ammazza tutto quello che c'era di positivo prima. Finale è evitabile. Beh, dai, diciamo che per una certa fascia di età è stato comunque un film molto coinvolgente. Mi pare di capire questo, comunque, sì, che quella, quella fascia... Certe fasce di età, in particolare, nel senso ho visto anche perché altri utenti. Perché poi, il fatto dell'esaltazione, cacciamo l'esempio di Dark Knight. Sì, ma spesso anche per i motivi sbagliati, parlavamo di originalità, cioè è hit... con Hit the Man, con sì, Batman sì, e il Joker, sostanzialmente. La miscela, però, insomma, singolarmente... Sì, è originale il melting pot, diciamo, di... Ma anche di qui, figure così. Supereroistiche, di film thriller poliziesco alla Mann, diciamo, il confronto... Sì. Che poi, vabbè, è anche comunque una tematica cara a Nolan, quello del confronto tra due personalità, tra le ossessioni di due personalità, però alla fine non c'è niente di originale. Quello che dico, insomma, l'esaltazione non va mai presa troppo sul serio. E questa è la conclusione. Relativa, no, non è un elemento che... Ma come si parla sempre di Fight Club in questi termini, no? Esatto. Cioè, questo discorso. Poi non li voglio paragonare, era solo per dire. Sono film che uno che magari non ha mai visto nulla lo vede, dice, oh cazzo, che il cinema è anche questo. Poi però c'è altro dietro. In questo caso... No, carino, basta. Ecco, quegli elementi per cui è originale non li mescola così bene, secondo me, quello che lo porta appena alla sufficienza. Cioè, la fase allegra, la fase seria, non si mescolano così bene. Cioè, c'è la sequenza action, poi dopo, bruscamente, c'è il personaggio ridicolo, volutamente ridicolo. Secondo me non mescola bene queste parti. Nel senso, vuole essere tante cose... E non riesce in nessuna. Iniziamo dall'ultimo film di Ridley Scott, che è Robin Hood, con Russell Crowe, vabbè, Kate Blanchett, esatto, Mark Strong, l'onnipresente Mark Strong, che è pure in Sherlock Holmes. Fa sempre il cattivo, anche in fa sempre il cattivo, solo quello. Holmes è cattivo, in Robin Hood è cattivo, ce la facciamo da è un attore versatile. Una news oggi fanno Sherlock Holmes 2 e il cattivo sarà Daniel Day-Lewis che farà il dottor Moriarty. Che bello. Mi vendo. Parliamo di Robin Hood. Non è il solito Robin Hood. È corretto, diciamo, partire da questa premessa, nel senso che non è la solita storia del re dei ladri che ruba i ricchi per dare ai poveri, capi, torna dalle crociate, va alla foresta di Sherwood, incontra Little John e fanno un'allegra brigata contro il principe Giovanni. È più che altro un film diverso che si pone l'obiettivo di dare nuova linfa alle origini dell'uomo in calzamaglia e parla quindi di un Robin Hood non ancora principe dei ladri, ma un Robin Hood che torna dalle crociate quasi con disonore, e quasi per caso si trova a dover portare la notizia della morte del re Cuor di Leone, che si chiama Riccardo Cuor di Leone, sì. E quindi, diciamo, si finge un nobile e capita al capezzale di Sir Locksley, che poi è interpretato dal grandissimo Max von Sydow. La salma di Max von Sydow. La salma di sì, quello che rimane di Max von Sydow. Robin Hood si finge figlio di Max von Sydow e quindi conduce una campagna contro il re di Francia, che tramava attraverso la spia, appunto, dell'esercito inglese, che è appunto Mark Strong, tramava contro il neo re Giovanni. Ma io sinceramente questo film l'ho trovato abbastanza, cioè, è il solito film in costume di Ridley Scott, né più né meno. Cioè, c'è sempre il protagonista che viene da umili origini, a contatto poi con la nobiltà, quasi in grazia di Dio, in odore di santità, diventa un uomo tuttofare, il più grande agronomo di questo pianeta, conduce le truppe alla battaglia, eccetera, eccetera. Ho apprezzato particolarmente il fatto che comunque non sia il classico film di Robin Hood, questo sì, questo va detto. È un reboot. Però, sì, quasi un reboot, però beh, comincia a parlare di reboot... ma ogni film di Robin Hood è un reboot, eh. Sì, sì, cioè, però questo è diversi, tutti impostati da un punto di vista diverso, una storia diversa. Sì, sì, però questo è un Robin Hood delle origini, anzi doveva chiamarsi, sì, Nottingham, appunto. Robin Hood Benix. Sì, infatti è questo, comunque è lui da vecchio, nel senso, cioè, rapportandolo a quello che doveva essere, ovvero il progetto Nottingham di Ridley Scott, che a suo modo era comunque rivoluzionario, cioè inquadrare l'intera vicenda dal punto di vista dello sceriffo di Nottingham, che doveva essere interpretato da Russell Crowe, e Robin Hood sarebbe stato interpretato da Christian Bale. Ed era un film in cui praticamente Robin Hood veniva visto come un criminale. Sarebbe stato abbastanza originale un progetto del genere, però poi non se ne è fatto più niente. Sinceramente non ho capito perché. Perché ha paura. Non ha avuto il coraggio di fare qualcosa di diverso. Ha dovuto cadere sempre nel fare il solito film su Robin Hood, che tutti vanno a vederlo. Sì, però alla fine non l'ha visto comunque, non è che abbia avuto tutto questo successo, è costato circa 200 milioni, ne ha incassati poco più della metà al momento. Appunto, non ha avuto coraggio, l'ha chiamato Robin Hood e se lo chiamava è stato Nottingham, punito per questo. Sì, ma se faceva un Nottingham, lo faceva come le sue idee originali, magari... Cioè, la gente diceva, non è Robin Hood, è l'ennesimo Robin Hood, è qualcosa leggermente diverso. Allora magari lo vado a vedere. Però, sì. Molti elementi di una sceneggiatura, diciamo, che è stata accantonata, li ho anche ritrovati in questo film. Sì, si sente. Cioè, a tratti sembra che sia stato un po' tagliuzzato qua e là, alla meno peggio. E non lo so, per quanto mi riguarda c'è comunque rammarico, perché il progetto originale... Ero il classico spettatore che, come dici tu, dice, ma questo quindi è Nottingham, non è il solito Robin Hood, lo andrò a vedere. Ma un po' deluso, sinceramente, non so voi che ne pensate. Ha deluso le aspettative, se doveva essere qualcosa di diverso. Invece è il 53esimo film uguale su Robin Hood, allora... L'hai contati tutti? No, basta vedere su internet, è il 53esimo. Tra l'altro... Il finale con la discesa in battaglia dei My Little Pony è qualcosa di tremendo. Sì, fosse cioè, l'unica cosa bella. Solita scena di battaglia. Anche il fatto che lui esca dall'acqua tra le due notti, sì, l'hanno schiacciato, è tutto tiro con l'arco alla fine, non la fine, quando sì, sì, insomma, quello risolutivo, senza dire nulla. Sì, sì. Poi non so sì, chi fa questi film ha mai visto come funziona un arco. Un arco non va oltre 30 metri, cioè una freccia tirata con l'arco non va oltre 30 metri. Vabbè, ma è Robin Hood, capito? Vuole fare un serio e poi puoi fare il cecchino da un chilometro e mezzo, dai. Sì, vabbè, ma tutte le verità sul fatto che sia un film serio vengono meno quando scelgono i bambini in battaglia, dai. Se prima potevi avere qualche speranza, il finale proprio cancella ogni sì e no quei momenti più belli. il principe Giovanni si è troncato un attimo prima, si firma tutto, datemi carta bianca, la scena dopo l'ha già cambiato idea. Anche l'entrata in battaglia di Giovanni, questa euforia che colpisce questi soldati. A voi era piaciuto American Gangster? Mica tanto. Carino. L'ho visto anche Darkman, dai. Dai, però rispetto comunque a quello che ha fatto Ridley Scott di recente, era comunque qualcosa di... Sì. C'era oro rispetto gradevole. A... Sì, anche lì ne hanno parlato come il padrino nero. Anche lì le aspettative erano una cosa... Sì, ma non c'è da manco niente col padrino nero. Cioè, sì, ma è proprio qualcosa di... Vai a vedere le recensioni, c'è scritto il padrino nero. Vabbè, tutto, sì. I giornalisti dicono un sacco di stronzate sostanzialmente. Anche noi diciamo un sacco di stronzate, figuriamoci loro. Noi siamo giornalisti. Stile, però. E comunque è vero, sembrava il ritorno al grande cinema di Scott. Invece, insomma, sì, in confronto alle crociate... Per carità, è oro in quel senso, però è poco più che sufficiente. No? Poi, ma secondo me, siamo anche le crociate, ma al di là di Orlando Bloom, no, che è stato secondo negativo secondo molti. Poi, io, cosa? Era solo per citarlo, perché era il picco negativo secondo molti. Io ho visto ad esempio la Director's Cut, non è poi così male. Cioè, il film uscito al cinema si vede che era tagliuzzato qua e là. Cioè, sono proprio degli stacchi che all'improvviso si cambiava totalmente tono e scena senza nessun criterio. Ma invece la Director's Cut mi è sembrata abbastanza coerente, più solida da questo punto di vista. Certo, non è un grandissimo film, Non è un grandissimo film, no, però... No, però di solito quando si parla del cinema brutto di Scott si dice che quello è il fondo del barile. Però in effetti non lo so... Sì. Non me lo ricordo così bene. Si dice déjà vu e poi si ricorda che quello è Tony Scott. Sì. Lasciamolo stare, per favore. Povero Tony Scott. Tra l'altro, forse anche l'altro fratello, Jordan Scott, lavora. Ed è regista anche lui. Addirittura? Sì, una famiglia. Che Dio ce ne scampi. Ah, invece, parliamo del... Non so, qualcuno d'altro vuole dire qualcos'altro su Robin Hood? Possiamo andare avanti The Road? Robin Hood, ci sarà un seguito o no? Si era vociferato, ma dagli incassi bassi, non lo so. Jordan Scott? Sì, è un regista Jordan Scott. Sì, va bene, ciao. Ha fatto crack. Ci sarà un seguito con... diretto da Mel Brooks, dai. No, ma... Dovrebbe esserci, no? Visto che questa volta parlerà il solito Robin Hood. Guarda, visto gli incassi, secondo me non ci sarà neanche... l'ipotesi di un seguito, perché in casa ha floppato clamorosamente, ripeto, 200 milioni di costo, 102 milioni di incasso, poi gli americani ovviamente guardano solo al mercato di casa, non si capisce perché, sì ho capito, però cioè, lo distribuisci nel mondo comunque ha guadagnato 296 milioni, forse non recuperano, non arrivano al punto di recupero, però... Vabbè, ma tanto non fanno un seguito tra 5 anni esce un nuovo Robin Hood. E comunque, se non fanno un seguito, tutto sommato non ce ne frega poi così tanto. Ma speriamo che Scott si dedichi ad altro, no? Visto che Alien le origini. Basta. Sembra una macchiata, io ci spero. Magari chiude una carriera in maniera decente. E chiude, se gli va bene quello. Sì, appunto, c'è quel rischio anche quello, sì. Dopo Predator con Adrian Brody ci sarà Alien con... E niente, so. Ancora una voce. Con Max von Sydow. Sì, lui l'alieno. Vabbè, passiamo a roba meglio. Tanto, basta parlare di per fare una critica che hanno fatto tutti al primo Alien, visto che è Scott, che l'alieno era sempre immobile, fatto malissimo, cosa che non è vera. Von Sydow, visto che è immobile, starebbe benissimo. Sì. Passiamo ad altro, parliamo di The Road di John Hillcoat. Film post-apocalittico, si può... questo è il genere, no? Che va tanto tra i giovani di oggi. Che c'è da dire di questo The Road? Questa strada che i personaggi devono percorrere, che porta dal nord degli Stati Uniti fino al sud, dove si pensa che ci sia il caldo. Ma io non riesco a raccontarla bene la trama. Fatela fare a intrinseco. Niente, un padre e un figlio che scelgono di sopravvivere in un mondo post-apocalittico mantenendo una morale, cioè non abbassandosi a ridursi insomma al cannibalismo e alla violenza. quando tutti gli altri mi sono scelto di farlo. Mi ricordo un altro film a me questo, Il tempo dei lupi. Sì, comunque, lo vedo. Ho letto un'analisi abbastanza interessante su The Road, sull'ultimo numero di Duellanti, riferendosi comunque all'universo di McCarthy, che è lo scrittore del romanzo da cui è stato adatto il film. The Road sia, diciamo, una sorta di seguito di Non è un paese per vecchi, ovvero la deriva dei valori morali che era presente comunque in Non è un paese per vecchi ha portato a un futuro come quello di The Road, dove praticamente come... Oh, che cazzo si è rotto? Si qualcosa si spezzava? Matteo, stai casini a casa. No, hai spezzato il discorso. No, vabbè, comunque, il fatto è questo, che comunque, come ne parlavamo anche sul forum, comunque, che è praticamente, è praticamente un film in cui, diciamo, un contesto in cui viene meno il patto sociale tra le varie persone, insomma, quindi è un... In generale è tutta la letteratura di McCarthy, non ho letto quasi niente, sì. So che va più o meno a blocchi. Guarda, ho finito stasera di leggere Figlio di Dio, è comunque un libro che parla di violenza e in particolare di deriva dei valori. No, cioè, c'è sempre questo tema, la trilogia della frontiera, anche come ambientazione, insomma, tende a ripetersi, nel senso, nei termini, nelle situazioni. Comunque sì, insomma, è un esito. Sì, il cataclisma è naturale, però in effetti la decadenza della civiltà è una scelta in un certo senso, quando se loro due riescono a sopravvivere così, uno dice potrebbero farlo anche tutti gli altri, però insomma è abbastanza complesso come film anche per questo, no? Sì, che poi è sì una scelta, però tutto sommato anche il registro morale del padre non è poi così cristallino, diciamo, non è proprio candido, non è un... insomma, lui dice di essere un buono, però effettivamente nel film lo dice al figlio, insomma, fa delle cose più che normali, anzi diciamo che come buono funziona, reagisce come reagirebbe chiunque, hai un figlio fino a quando non mi fai qualcosa e non ti faccio niente. Poi non è un po' questa la logica, è una fobia, non è che spaventato, no? Anche un ladro, anche un cieco, che ne sai, si muove, tira fuori una lama, tira fuori qualcosa, non è più una regola. Insomma, è bello, è molto crudo in questo senso. Sono le sfumature, ma non il luogo comune del grigio. Cioè, proprio una situazione accettabilissima. Andrebbe probabilmente così se succedesse una cosa del genere. Sì, molti ho sentito pareri sparsi qua e là nella rete, ma anche, diciamo, amici che l'hanno visto, e molti non so come, ma non sono riusciti neanche a concepire come ci sia possibile, diciamo, uno stravolgimento così totale dei valori che, diciamo, sono alla base della nostra civiltà. Cioè, il fatto che comunque ci fossero dei personaggi che avevano durante il film hanno messo in piedi una sorta di allevamento di uomini. Sì. Beh, ma il bello è quello, no? Lui crea un universo che funziona benissimo. Cioè, crea un cataclisma inventato da zero, perché non dà spiegazioni. No? La terra è morta, non puoi coltivare, gli animali muoiono. Cosa mangi? Non puoi mangiare nulla, nel senso, a me è plausibilissimo, cioè, nel senso, ha creato una situazione così credibile che non poteva andare diversamente, per cui anche la cosa... realistico nel suo essere fantascientifico. La cosa poi straniante è che comunque gli attori di questo, diciamo, di queste violenze, insomma, sono persone totalmente comuni, cioè non è il mostro. A parte all'inizio c'è quella banda di debosciati che vanno vestiti in maniera ridicola, però ad esempio anche... La camicia di flanella e il fucile. Sì, non scade nei cliché del genere post-apocalittico. Esatto. C'era addirittura chi diceva che fosse meglio Codice Genesi, ma lasciamo stare. Certa gente deve stare zitta. Sì, lasciamo stare, non teniamo neanche in considerazione. No, a me personalmente è piaciuto molto. già dalla premessa, vabbè, ho trovato grandissima comunque l'interpretazione di Viggo Mortensen, che è sempre molto fisico nei suoi ruoli. Ma è anche perché è un ruolo scritto per lui, sembra. È proprio Viggo Mortensen, sì. Non poteva essere nessun altro. Glaciale. Beh, comunque è bravo comunque a trovare i ruoli scritti per lui, perché anche ad esempio in La promessa dell'assassino di Cronenberg sembra veramente un ruolo che gli sta appendendo. Sì, sì, sì. Poi non è, nel senso, non dico, voglio dire, sì, non è un De Niro, però insomma è un ruolo sempre sentito, non deve fare nulla, è glaciale, però per fare il mafioso è andato in Russia un mese, per fare questo film, se non sbaglio, ha fatto comunque delle esperienze un po' più di vita nei campi. Ma lui è un personaggio un po' curioso comunque, è un po' artista, un po'... Un buon potenziale da divo, certo, non può fare l'attore comico, ma magari sì, l'abbiamo sempre visto in questo tipo di parte. Però il viso molto scolpito, molto freddo. Mm. Certo, io da Aragorn non me lo aspettavo, sinceramente. Beh, però è bello che si sia distaccato, cioè poteva fermare lì, poteva morire lì, la sua cazzina, cioè, ha fatto film d'autore, due con Cronenberg, che vorrei vedere, insomma, anche dei buoni film, questo... Sì. Ho fatto quello orribile, non mi ricordo come si chiama, Alla Triste, quello spagnolo in cui fa... Alla Triste, sì. Il destino di un guerriero. Esatto, sì, evitabile. Insomma, altri film più discutibili. Palusa. Sì. Palusa è buono. Sì, è splendido. Lui. Il problema era il... Non è... Lui faceva veramente un cowboy fantastico. Ha fatto il pezzetto. Anche lì il ruolo gli sta a pennello a lui. Non vedo nessun altro in quel ruolo. Un nuovo istante. A me è anche piaciuto il fatto che abbiano utilizzato delle location reali. Ad esempio c'era una sala realmente, una sala da ballo realmente bruciata. C'era le riprese in esterno, la maggior parte sono state fatte sui luoghi della devastazione dell'uragano Katrina. Sì. Questo mi ha affascinato molto, perché di solito si vedono, ad esempio anche in Io sono leggenda. Cioè, la prima parte, parliamo solo della prima parte perché il film in sé per sé fa cagare, ma la prima parte comunque che dà bene il senso di isolamento, sapeva comunque di posticcio. Sì, c'era molto digitale. Sì, anche e soprattutto se rapportato ai luoghi di The Road. Sì, ma soprattutto le scene con gli animali, con i leoni in mezzo a New York, quello è terribile. Anche la scena in macchina era molto posticcio, invece The Road è un consunto, uno sporco molto vero. Vabbè, anche vero che qualsiasi cosa tocca Will Smith diventa cafone. È un po' così. Ma ecco, il bello di The Road è nella sua semplicità, anche nei contenuti, non è niente di che, è una storia semplicissima, senza appunto cadere in quei cliché dei post-apocalittici con i cannibali pazzi che sparano di quelli là, esplosioni, inseguimenti in macchina, inverosimili, quelle cose, è semplicissimo. Anzi, molti lo troveranno anche noioso perché non succede niente. Invece è un bellissimo film proprio per quello. Tra l'altro sfatiamo un mito che si era creato attorno a The Road, del fatto che i distributori italiani non lo volessero acquistare perché era deprimente. Questo è stato un mito messo in piedi dalla Repubblica, insomma, sti giornalacci qua, diciamo. Che è stato prontamente, oddio, quando diciamo, ha trovato un distributore italiano, è stato smentito dal blog Superbad, di badtaste.it praticamente, e dove dice che semplicemente al Festival di Venezia dove era stato presentato, i fratelli Weinstein hanno chiesto delle cifre esorbitanti per la distribuzione di questo film al di fuori degli Stati Uniti. Era una scusa, allora. Sì, poi praticamente a Berlino hanno decisamente abbassato le loro pretese economiche e si è trovato un distributore. Insomma, che fa per dire. Quindi, sì. Vabbè, tendono sempre un po' a ricamarci su queste cose, dai. E vabbè. E purtroppo anche di questo si parla di sequel, eh. Il che mi dà veramente... È una martellata sui coglioni sta cosa del sequel di The Road. Non lo so. Vabbè, parliamo invece di Intrigo Internazionale, che è stato visto per noi da Darkman. Andiamo un po' indietro col tempo, da due film abbastanza recenti. Un film del... Come mi devo vestire? 1959. Come ti devi vestire? Facciamo un viaggio lungo. Sto sonno per queste cose, non le capisco le battute a quest'ora. Allora, sì. devo dire? Non lo racconto perché non ne sono capace. Non dice, mi va. Quindi dico direttamente il mio giudizio, anche se comunque potrebbero dirlo anche il Drinz e quel Mongo, che pure loro non hanno visto. Vabbè, che loro, dire? Loro ti smonteranno, dai. È un film, cioè, di Hitchcock, quindi, cioè, tecnicamente è sicuramente, cioè, è sempre buono, però a me è sembrato il classico film americano, proprio classico nel senso non buono del termine. Classico, ma 20 anni prima, però. Classici, è classico, anche... anticipa tutto, nel senso, sono quelli dopo che sono classici, come quasi tutto l'ha fatto Hitchcock, insomma. Sì, ma più che altro a livello, non... cioè, di la storia, la trama, la sceneggiatura, cioè, c'è Cary Grant che fa quel pubblicitario che poi diventa, sì, una specie di 007, un po' comico, per un personaggio abbastanza divertente, non è serio. C'è, cioè, lei, la classica, ma non speriamo, perché comunque, beh, i colpi di scena, cioè sono dei colpi di scena che sono abbastanza prevedibili. Cioè, il film dura 127 minuti, cioè più di 2 ore, e stai praticamente già alla fine. Cioè, è bello, perché è bello, è girato bene. I primi piani di Hitchcock sono sempre belli, che tirano fuori, cioè, quando vedi quelle attrici, no, tutte ste luci, cioè, è parecchio bello. Però, scusa, questo penso che... cioè, comunque tu il film devi contestualizzarlo, cioè un film che è uscito... infatti, quello che mi chiedevo... 50 anni fa. Quello che mi chiedevo, infatti, è se 50 anni fa il film potesse essere interessante per il pubblico, cioè se il colpo di là, quando lui sta col coltello, no, che viene... no, col coltello non in mano... Non spoileriamo, attenzione. Rimane con coltello in mano, veramente... non uccide, rimane con coltello in mano, c'è proprio una cosa banale e la colpa ricade a lui, cioè proprio una... cioè, beh, l'inizio si può dire quello. Non è proprio... sì, no. Cioè, io trovo che la trama sia abbastanza debole, però, ma parecchio debole. Io resto è bello. Forza. Cioè, anticipa il 007, nel senso, ha fatto prima quello che hai visto in quanti, cosa sono? 17? 22. Quindi insomma, negli anni 60, questa, magari che ha creato un filone che poi... 21 e Quantum of Solace. Sì, vabbè, poi con un conto di ultimi perdono quell'ironia, però... anticipa i primi 007, cioè quell'ironia, quella situazione. Poi lui è un tipico personaggio di scocchiano, non è uno 007, è un punto. No, non è uno 007, infatti, è un assolutamente. No, nel senso, il contesto è quello, però c'è quell'ironia che, insomma, ha inventato un genere, in fondo. Può essere interessante, dico, sicuramente ci avrà la sua importanza storica, quindi a questo punto ce lo dico, non è che... però nel 2010 ti arrivi di sto film, magari dopo mezz'ora dici, vabbè, cioè... la trama non è che te prende, ecco, solo quello. Poi sono, dici, che è invecchiato male, no, invecchiato male no, perché è bello da vedere, solo che è noioso, cioè, sono un spettatore che hanno fatto di tutto e di più, cioè a livello di storia, di sceneggiature, di trama, cioè sono passate le peggio correnti, cioè vedi un film del genere magari un po' troppo banale per lo spettatore di oggi, però è bello da vedere, parecchio bello. Per lo smaliziato spettatore di oggi. Cioè, no, ma scusa, come fa... come fai a non immedesimarti in questa storia dell'uomo comune che incappa in varie situazioni da agente segreto che non è, ovviamente. Ti immedesimi. Ma sì, ma anche per Grant che... sei te che eri Grant. Potresti trovarti anche tu in quelle situazioni lì. Per me te critichi il motivo scatenante, cioè quella scena lì dove gli rimane col coltello in mano e muore uno, si può dire questo, dai. Quello, perché non è quello, l'ho scatenato. Quella è una conseguenza. Comunque sono scenari tutti e due credibili. Ah sì, sì. Sì, comunque sì, cioè, nel senso, anche quello lo imputta ancora di più. Da lì c'è una fuga, quindi è già diverso. Sì, ma dico, credo che lui critichi quella scena lì. Poi per il resto... ma io credo anche non solo quella scena lì, ma anche quando comunque i vari colpi di scena, che mo non so di, comunque tutti abbastanza prevedibili. Cioè non è che dici, oh, che rimani, capito? Dici, cioè che rimani stupito. Appunto, sei uno spettatore di oggi che ne hai viste di quelle cose lì. Per esempio, Psycho, se lo vedi adesso lo sai già tutto, ma non è un film brutto. Psycho mi ha colpito di più. A me Psycho, quando l'ho visto, mi ha colpito di più. Cioè, ma non dico che mi ha fatto paura, però delle scene... è abbastanza prevedibile, però delle scene non te l'aspetti. Mo non voglio spoilerare neanche Psycho, però... Penso alla prevedibilità di Psycho. Sia dovuta al fatto che, ad esempio, la scena della doccia... paradossalmente è quella che secondo me colpisce di meno, proprio perché ormai quella scena è entrata nell'immaginario collettivo. Ma abbastanza colpito, perché comunque è abbastanza angosciante quella scena. Cioè, sì, ma no, secondo me è la meno angosciante rispetto a molte altre. Ad esempio, c'è una scena che mi ha proprio impaurito. No, due scene che mi hanno proprio impaurito. quando viene aggredito il poliziotto sulla tromba delle scale. Esatto, cioè, quella, io, quella me... Invece quella della doccia, boh, ho detto sì, ecco, arriva la doccia. Anche il trick internazionale, la scena più famosa, si è vista anch'io a me. Quella dell'aereo. Quella dell'aereo che infatti è bella, però comunque è bella, anche la, cioè, non la conoscevo, sì, mi è piaciuta quella scena. Ma no, questo io penso che sarebbe bello vederla senza avere quel retroterra, nel senso vederlo come se fosse un film nuovo, ma quello vale per tutti, no? Ma cioè comunque è difficile, sì, però effettivamente è il modo in cui deve essere affrontata la visione di un film, sì, senso, però da dato, nel senso psycho, ti hanno bombardato per anni, è difficile dire no, adesso lo vedo, cancello tutto quello che so, non puoi, nel senso, cioè, certo, il film, la qualità è innegabile, anche il primo internazionale, però quando hai visto, certo, 40.000 volte la scena dell'aeroplano, soprattutto fuori dal film, nel senso, a me è capitato di vederla fuori dal contesto. Quando arriva lì ha perso un po' il suo valore. Anche nei Simpson. Sì, le parodie. Secondo me ti puoi mettere quanto vuoi impegno, ma insomma, ti hanno demolito un po', l'hanno resa normale, l'hanno resa... Nella casa d'asta, no? Fare... Cioè, quando lui sta là che rimane praticamente rinchiuso, cioè con le due guardie che sono una da una parte e una dall'altra, il metodo che usa per scappare è divertente, anche come se ne esce fuori lui, le battute che fa e come viene messo su, però è prevedibile, quando sta là e se siede tu dici ecco questo qua mo in qualche modo si fa caccià, perché è l'unico modo per uscire da quella situazione. Poi cioè, se no il film non va avanti. Lo so, però quella trova. Questo tipo di scene, quindi c'è sempre il personaggio chiuso tra una folla che deve uscire, poi ogni tanto riesce meno. Ma poi lì l'immedesimazione è massima. Sì, appunto, anche perché le carica in un modo splendido quelle scene. Senti lì, ti senti come lui, hai paura, non sai come... Come costruisce la tensione Hitchcock, credo che ce ne siano... Non ce ne sono stati... No, nessuno. Ah, forse il primo Shyamalan, ma proprio il primo. Vabbè, ma giusto il primo. È un... Ha visto tutti i Hitchcock a memoria. Sì, è un surrogato, diciamo. Ha imparato bene. Anche un po' l'ultimo Scorsese. Internazionale, sicuramente. Cioè, penso che su questo per uno, no? Ha fatto tre, ma almeno 5-6 film migliori dentro internazionale, forse anche di più. Sì, ma del genere che ha fatto sull'uomo comune che finisce a essere in un guaio internazionale quasi. Ne ha fatti più di uno e questo credo che sia il massimo che è riuscito a fare, cioè il migliore questo. Altri quali... Beh, comunque colpisce l'eclettismo comunque di Hitchcock, che sì. È stato comunque un artista molto sfaccettato. Ha inventato lo slasher, ha inventato il genere di uccelli, di cos'è, catastrofico. Sì. Ha inventato tante cose. Ha dato un contributo comunque al thriller. Ha inventato il 007. Thriller come lo ha inventato il 007. Sì, sì. Il thriller prima non era quello. Vabbè, io penso che sia l'assassino in quel modo. È l'unico che te l'ha messo davanti. Ti fa affezionare l'assassino. Cioè, Norman Bates è splendido. lo vivi mentre uccide. Era il primo a farti vedere, sì, l'assassino mentre. Non mentre commetteva il delitto, perché non lo vedi fino a un certo punto, però. Insomma, parteggi per lui, è la cosa più difficile, no? Creare un personaggio simpatico, anche se è un mostro. E dopo aver parlato, insomma, di questi film in maniera più approfondita, diamo una serie di consigli e sconsigli. Io ho visto recentemente due che sono tre in realtà, una trilogia, A Better Tomorrow, che penso di? John Woo. E due parole su questo film? No, sono due film che consiglio entrambi, cioè uno è il sequel dell'altro, ovviamente il terzo non l'ho visto, non è neanche lui suo, non penso sia comunque bello come questi due, che sono dei bei film, sono dei bei action, che vanno visti sia se sei appassionato del genere, che sia se non sei appassionato, ma se ti piace semplicemente il cinema, poi se invece sei più magari per il cinema del genere, ma sei un appassionato solo di un certo tipo di cinema, magari non li vedere. È un po' il genere di John Woo, non di Hard Boiled. No, non li vedere, cioè, vediteli se vuoi vedere. Però li consiglio principalmente a tuo rischio e pericolo. A chi piace il cinema in generale, perché sono belli, sono ben girati, sono ben fatti, c'hanno anche una, cioè per essere di action c'hanno anche una bella trama, sono anche ben recitati. E sia a chi invece piace magari semplicemente l'action movie. Tra l'altro ricordiamo che John Woo era a capo della giuria dello Shanghai Film Festival che ha premiato Baciami Ancora, sì. Così per spalare un Comunque, po' di merda. Non sono i suoi migliori film, cioè sono due bei action, ma della roba, cioè della sua carriera orientale ha fatto di meglio. Il Monco, tu invece che ci consigli? Posso sconsigliare anche, sì. Sì, allora, sconsiglio... e mi unisco. Ecco, quindi abbiamo anche due voci. Sconsiglio Baria, il filmone, l'ultimo filmone di Giuseppe Tornatore. Invece di guardare Baria, prendetevi, andate al video noleggio e prendete Malena, L'Uomo delle Stelle e Nuovo Cinema Paradiso, tutti e tre dello stesso regista Tornatore, e guardate il primo tempo di uno, il secondo tempo dell'altro e il primo tempo di uno, del terzo. Guardate in quest'ordine, anche sparso, poi mettete un capitolo prima di uno, poi un capitolo dell'altro, la stessa cosa, guardate Baria, la stessa cosa. Tante ma più che altro, dai, posso riguardare Baria, ascoltate un po' il nonnetto della situazione che vi racconta com'era la vita a quell'epoca. Ma se non sei siciliano... Un film perdente, soprattutto anche in ambito internazionale, visto che ai Golden Globe ha perso, agli Oscar non c'è andato, non ha vinto manco al David di Donatello, non ha vinto niente, a parte le musiche di Morricone, che ci mancherebbe. Che non ha manco trovato tanto ispirate, sinceramente, cioè Morricone ha fatto di molto meglio, ma sì, certo. Anche il peggio prima di Baria di Morricone è meglio di quello delle musiche di Baria, insomma, non è sì, però... niente di che. È talmente brutto Baria che è un poco ispirato a Morricone, è la cosa migliore del film. Sì, infatti, sì, sicuramente. Beh, però anche le scenografie di Dante Ferretti non sono male, insomma. Sì, certo. Ricordiamo che Baria è ricostruita tutta in Algeria. Mi ricordo la Pinotta che aveva detto questo cinema italiano... Con le comparse tunisine, che tanto sono uguali ai siciliani, secondo i produttori di Baria. Assolutamente identici. Il difetto principale di Bari è che vuole mettere troppa roba e fa confusione, non sa più neanche Morricone, Tornatore non sa più cosa fare e alla fine scade nel solito sentimentalismo e questo ragazzo che se c'ha la donna e c'ha i bambini e c'è la politica e niente, è un casino. Poi io l'ho trovato abbastanza goffo quando vuole essere metaforico. Anche, ma... Quegli scampoli di film psichedelico, tipo I Serpenti Neri, queste cose così. Ah, no? Sì, sì. Le trovate pacchiane e boh. È perché quel finale con... Sì, di una tristezza... Nel futuro, sembra. Cioè, ma anche l'inizio col bambino collegato ai fili che vola, quella è una cosa tristissima. Sì, perché anche è fatto malissimo quello. Sì, una cosa mamma mia. Quindi... È pessimo in qualsiasi cosa provi a fare, totalmente bocciato. Consiglio Repulsion o Repulsione, dovrebbe essere uscito col titolo italiano qui in Italia, di un giovanissimo Roman Polanski, il suo primo film importante, visto che il precedente era, mi sembra, uscito solo in Polonia, comunque una produzione minore. Un bellissimo recitare una frase trovata. Polanski, al primo film realizzato per la Polonia, porta alla superficie delle cose, un interno all'interno, vabbè, un delirio psicologico e trasforma la normalità in un film dell'orrore. Un film che praticamente... Ma tu non vai, le stai leggendo, si sente. Ma l'ho pure detto che stavo citando una frase. Sì. No, ma rovinato, basta, meglio così. Beh, guarda. Senti, consigli Repulsion, ok. Sì, Repulsion e... Polanski, e guardatevi tutto Polanski, ciao. Okay. Intrinseco invece? E allora, io oggi ho visto Houdini, l'ultimo mago, di Gillian Armstrong, non so chi sia, con Guy Pearce e Catherine Zeta-Jones, non guardatelo, è una porcata, storicamente non accurato, la storia d'amore è patetica, non so dove voglio andare a parare. Poi si accoda a quel genere che andava che è andato tanto in questi anni, insomma, The Prestige, The Illusionist, patetico, penosissimo. E poi ieri ho visto Uccidete la colomba bianca con Gene Hackman, non mi ricordo di chi è, film di spionaggio, carina l'idea, carino l'intrigo, visto che parlavamo di intrighi internazionali, guerra fredda, attentato a politici russi e americani, però a parte l'idea di base è abbastanza evitabile, eppure l'ho sempre sentito nominare. Ma alla fine Houdini si salva. No, tra l'altro il finale è sbagliato storicamente. Vabbè, non spoiler. No. Tanto... Sì. Comunque Udinì l'hanno ucciso con un cazzotto, perché un non l'ha ucciso l'acqua, ma l'hanno ucciso i cazzotti. Sapevo che era negato, invece un pugile l'ha colpito all'addome, perché lui come trucco sott'acqua per liberarsi il pugile lo pestava, no, niente, si faceva picchiate per far vedere che non accusava il colpo. Insomma, non se l'aspettava, l'hanno colpito e gli hanno, penso, rotto la pendice e è morto di peritonite. Ok. Tristissima. Nel film si inventa una storia penosissima. Anche Guy Pearce è tristissimo. Sì, no, poi c'è Catherine Zeta-Jones, ingottatissima. Ah, è quello con Catherine Zeta-Jones, adesso... C'è anche Saoirse Ronan. Che ragazzetta. I amabili resti. Perché c'è Saoirse Ronan, come cazzo si chiama quella bimba? Stracanadese. Invece consiglio il concerto di Mihai Leanu, regista credo romeno, e è un film l'ho trovato molto bello, molto divertente, anche toccante, ha un paio di colpi di scena, strappalacrime, però non è uno strappalacrime retorico oppure pomposo, è uno strappalacrime abbastanza strappalacrime, appunto, sì, è molto emozionante, soprattutto il finale è stato un crescendo impressionante, molto molto bello, lo consiglio a tutti quanti e ne sto parlando poco perché c'ho sonno, come penso tutti quanti, no? Sì, dai. Vabbè, allora chiudiamo qua. Ci siamo divertiti un sacco. Spero vi siate divertiti anche voi. Mi fai vedere la moto subito. Buonanotte a tutti. Salutiamo Intrinseco. Se lo vedono una mattina, no. Se lo sentono una mattina. Noi siamo in notte. Sì, siamo in notte. Noi registriamo di notte. Dai, dai, salutiamo Intrinseco. Ciao. Oh, ciao. Salutiamo il Monco. Ciao. Buonanotte e buona fortuna. Salutiamo Darkman, ciao. Ciao, ciao. Salutiamo Alex Diro, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao Sole, ciao, ciao. Qualcuno l'ha capito il riferimento, grandi, grandi. Vivo davanti alla televisione, io, delle piaghe di decubito. Odio tutti. Cari amici ascoltatori, si conclude così la puntata pilota del podcast dei Cineplegici. Mi scuso per la mia voce leggermente nasale, ma ho un raffreddore terribile dovuto all'allergia al polline che mi sta uccidendo. Noi ci siamo divertiti moltissimo a registrare, a parlare di cinema e a esporre la nostra opinione sui vari argomenti, e speriamo di avervi fatto divertire. Sicuramente questa puntata avrà un seguito, quindi vi consiglio di restare sintonizzati sul nostro blog, dove tra le altre cose scriveremo articoli per ingannare piacevolmente l'attesa fra una puntata e l'altra. Vorremmo inserire un angolo della posta nel podcast, ma per questo abbiamo ovviamente bisogno delle vostre mail. Vi ricordo dunque che il nostro indirizzo di posta elettronica è cineplegici@gmail.com e vi chiediamo di scriverci i vostri pareri e le vostre domande. Le musiche che avete ascoltato sono reperibili sul sito 8bc.org. Una sola richiesta vi facciamo, siate clementi nel giudicarci e perdonateci qualche peccato di gioventù che ci siamo concessi. Vi ricordo che potete abbonarvi al nostro podcast attraverso iTunes cliccando sull'apposito link sul blog oppure ascoltare direttamente sulla pagina del blog questo file. Inoltre abbiamo anche una pagina Facebook, basta cercare i Cineplegici e ci troverete. Grazie e arrivederci.